La zanzara delle feste. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, auguri, auguri, auguri, buon anno, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta anche questa sera, all'orario della zanzara delle feste, 18, 20 e 30, con me Alessio Maurizio in studio, Nadia Zanitti e Stefano Catone in redazione, Pietro Lacorte in regia. Allora, insomma, vari ospiti anche questa sera, speriamo tutti quelli che si preannunciano, anche interessanti. E poi cominciamo intanto con un omaggio, 10 anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber, e usiamo un suo celebre pezzo. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Signori, veramente un felice anno nuovo, si fa per dire, perché di felice ci sarà la dipartita di questa gente che non se ne vuole andare. È finito un anno catastrofico per Igor Montis, si ripropongono tutti quelli che hanno disintegrato questo paese. Sinistra. Le scarpette da ginnastica o da tennis sono ancora un gusto un po' di destra. Il senatore Monti ha compiuto una libera scelta di iniziativa programmatica e di impegno politico. Egli non poteva candidarsi al Parlamento facendone già parte come senatore a vita. Poteva e l'ha fatto, non è il primo caso nella nostra storia recente, patrocinare, dopo aver presieduto un governo tecnico, una nuova entità politico-elettorale che prenderà parte alla competizione al pari degli altri schieramenti. D'altronde non c'è nel nostro ordinamento costituzionale l'elezione diretta del primo ministro, del capo del governo. Il presidente del Consiglio dimissionario è tenuto, secondo una prassi consolidata, ad assicurare entro limiti ben definiti la gestione degli affari correnti e ad attuare leggi e deleghe già approvate dal Parlamento nel solco delle scelte sancite con la fiducia dalle diverse forze politiche che sostenevano il suo governo. 800 24 00 24, sarà naturalmente una puntata con i buoni, cattivi, migliori, peggiori, bilanci, previsioni per l'anno che si è chiuso, l'anno che si sta aprendo, e vogliamo cominciare mettendo a confronto il re Giorgio Napolitano e il re dell'antipolitica Beppe Grillo. Ancora Grillo, avete fatto un colpetto di Stato di nuovo, durante le elezioni cambiate le leggi, ma è pazzesco, e prima ad aprile, poi a febbraio per non farci entrare, lo capisce anche un bambino, no? A febbraio riducete tutti i tempi, voi le firme non dovete prendere, basta vi accorpate a un partito di governo. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Scelte di governo dettate dalla necessità di ridurre il nostro massiccio debito pubblico obbligano i cittadini a sacrifici, per una parte di essi certamente pesanti, e inevitabilmente contribuiscono a provocare recessione. Ma nessuno può negare quella necessità. È toccato anche a me ribadirlo molte volte. Guai se non si fosse compiuto lo sforzo che abbiamo in tempi recenti più decisamente affrontato. L'ultimo discorso di Napolitano, applaudito da tutti come capita quasi sempre con i discorsi del Capo dello Stato, quest'anno particolarmente apprezzato da tutti, anche dalla Lega, con l'eccezione di Pietro, sentiremo tra poco qualche commento, e il consueto anche qua discorso sul blog di Beppe Grillo di fine anno, che non può più essere sicuramente considerato il discorso di un comico e di un visionario che si è buttato in politica. Un partito, ormai un movimento, il suo, anche se non forse non un partito, anzi sicuramente non un partito, accreditato però di percentuali a due cifre, e stavolta andremo a contarli questi voti di Grillo alle prossime elezioni. Ancora Grillo e Napolitano. Faremo una piccola indagine fiscale del politometro, perché verificheremo quanti soldi avevano prima, durante e dopo. Se le cose non quadrano, fare quel surplus lo metteranno su un IBAN per conto dello Stato. Quindi ci riprendiamo la nostra sovranità, discuteremo cosa siamo diventati. Ma cos'è la destra? È dunque entro questi limiti che si può agire per affrontare le situazioni sociali più gravi. Lo si può e lo si deve fare distribuendo meglio, subito, i pesi dello sforzo di risanamento indispensabile, definendo in modo meno indiscriminato e automatico sia gli inasprimenti fiscali sia i tagli alla spesa pubblica, che va in ogni settore con rigore liberata da sprechi e razionalizzata. 800240024, una puntata nella quale appunto dicevamo faremo anche un po' di bilanci di buoni e cattivi, di migliori e peggiori. Per esempio, secondo il sito pagellapolitica.it, le migliori, o meglio le peggiori panzane dei politici dell'anno che si è chiuso, quelle più votate da elettori, sono state una di Berlusconi quando parlava del livello del debito e dell'imbroglio sullo spread, affermazioni smentite, documenti alla mano, un'affermazione di Grillo sul fatto che le acciaierie nel mondo non ci sono più e anche una della Polverini sulle sue dimissioni. Sono le panzane migliori votate o peggiori votate dagli ascoltatori sul sito pagellapolitica.it. Ne vedremo anche delle altre. 800 24 00 24. Ma sentiamo qualche commento al discorso di Napolitano. Cominciamo con Di Pietro, l'unico che si distingue nel coro per le sue critiche. Da cittadino mi sento deluso, amareggiato e anche un po' offeso, perché invece di spiegarci come risolvere i problemi ci ha fatto un compitino di cose trite e ritrite che sono successe anche per colpa sua. E da ultimo, invece di in 7 anni farsi promotore per risolvere il conflitto di interesse, pieno conflitto di interesse si è messo a fare lo sponsor di un candidato alle prossime elezioni, quale è Mario Monti, facendo credere agli italiani che ha risolto i problemi del mondo. Ma Mario Monti avrà forse fatto quadrare i conti, ma soprattutto ha fatto pagare il conto ai più deboli, ai più onesti, creando una grande divaricazione sociale. Ed oggi che il Presidente della Repubblica dice che c'è una questione morale e una questione sociale grossa come una casa, io dico: lui in questi 7 anni che ha fatto? Dove stava? Sulla Luna? E quindi non venga a prendere in giro gli italiani. Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. È proprio vero che Tosi è un leghista anomalo per certi aspetti, per altri sicuramente è un leghista come tutti quegli altri. Così su Napolitano anche lui si allinea al coro, anzi apre per quanto ci riguarda il coro dei commenti positivi a Napolitano. Ha voluto dare un colpo all'antipolitica e ha messo dentro anche la lotta alla casta, ai privilegi della casta, alla corruzione, però dicendo anche che la politica non può essere dipinta come il male assoluto, perché la politica è quella che normalmente in qualsiasi paese moderno e democratico serve per governare e dare degli indirizzi. Quindi secondo me ha semplicemente voluto dare un messaggio positivo nei confronti di quella che è la buona politica, che per fortuna c'è ancora. Il demonio che era andato a destra, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana a destra. C'è anche la questione di Berlusconi sbarcato su Twitter da pochi giorni, che ha già 70.000 follower. Anche qua, come è già successo per altri, vedi Beppe Grillo, si comincia a parlare di mercato dell'usato, dei follower usati, perché insomma pare, scorrendo i follower di Berlusconi, che ci siano sudamericani e arabi a gogo. Che cosa c'entrano con Berlusconi non si sa, però questo è un fenomeno misterioso, ma che non vale solo per lui, vale per tutti quelli che hanno moltissimi follower, queste nuvole di seguaci su Twitter che sono un po' incontrollate. Segnaliamo un altro fenomeno su Twitter: ridateci Vienna. Sapete che da qualche anno la RAI non trasmette più la marcia di Radetzky in diretta, perché la Lega non voleva che si esponesse questo simbolo della presenza austriaca sulla Lombardia, parliamo di 2000 anni fa, cioè del Risorgimento, e invece c'è un movimento che dice: beh, finiamola con questa polemica spicciola di casa nostra, la marcia di Radetzky a Vienna è un momento di festa globale nel mondo, perché la RAI, unico paese, deve fare la differita e non la diretta. Se volete aderire, ridateci Vienna su Twitter. Traffico. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di conto. contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Tra poco cominciamo a sentire le vostre chiamate al numero verde. Adesso sentiamo anche come Francesco Storace, segretario della destra nazionale, ieri qua alla Zanzara ha commentato la decisione di Berlusconi, anche un po' in attesa, oddio in attesa, mancano pochi giorni ormai alle elezioni, però insomma era tutto bloccato in Lazio e in Lombardia. Berlusconi ieri ha sbloccato tutto, ha detto appoggiamo Storace, il candidato del PDL, del PDL che va dietro a Berlusconi. Poi ci sono delle piccole frange, non si sono ancora espresse, vedremo se ci saranno altri candidati. Sentiamo Storace. Zingaretti è partito con un largo anticipo, no? Sono alcuni mesi che fa campagna elettorale praticamente. Guardi, anche nel 2000 successe la stessa cosa. Lei è tranquillo? No, diciamo sono abituato a combattere le partite, certo, non ho mai combattuto una battaglia facile. Uh-huh. O meglio, io sono uno che contraddice i sondaggi, quando mi danno perdente vinco, quando mi danno vincente perdo. Quindi dice stavolta mi danno perdente e vinco. No, dicono gli altri, perché Zingaretti stava in testa senza nessun avversario praticamente, uno che gira solo, ha fatto la campagna immagina, no? Adesso immagina se perde. Ma sentiamo Storace che commenta la decisione di Berlusconi di sostenerlo, lui dice una decisione abbastanza inaspettata. Sì, una dichiarazione mi ha sorpreso perché non mi aspettavo la facesse oggi. Mm. Mi ha fatto ovviamente piacere perché era dimostrazione di fiducia e adesso abbiamo sulle spalle la responsabilità della vittoria. Credo proprio che non ci sarà una sola voce distonica rispetto... Cioè sta parlando di esponenti locali o anche nazionali? No, nazionali. Chi è che ha la chiamata, se ce lo vuol dire? Sì, sicuramente Renata Polverini, ha fatto una bellissima telefonata. Francesco Giro, sì. Parlo di persone che erano indicate nei sondaggi come possibili candidati. E poi ho ricevuto messaggi anche da altri esponenti molto autorevoli del centrodestra e che mi fa piacere, lo stesso Tajani. Cioè, insomma c'è tanta gente che si è detta pronta a combattere questa bella partita e io ne sono felice. Quello un po' degli anni 20, un po' romano e da Strozzi oltre che di destra. Beh, questo non poteva cadere meglio, la canzone di Gaber, no? Il saluto romano dopo Storace. 800 24 00 24 349 238 6666 se volete scriverci i vostri sms. Siamo attivi anche su Facebook. Salutiamo Jacopo Tondelli, direttore dell'inchiesta.it. Buonasera Jacopo. Buonasera a voi. Il sito l'inchiesta.it, da quanto siete online? Ormai da un quasi bel po'. Quasi due anni. Sembra passato un secolo per chi si è abituato a seguirvi. Però è poco tempo. Un progetto editoriale importante, cosa fate voi? Come possiamo dirlo in due parole per chi non vi conosce? Costruite Siamo approfondimenti. Un quotidiano di approfondimenti, inchieste, opinioni online. Quindi più che le notizie che si trovano sparpagliate da tutte le parti, trovate degli approfondimenti sulle notizie principali proprio anche di cronaca. Sulle notizie principali sono notizie che non ci sono da altre parti, punti di vista che noi cerchiamo sempre di ospitare in modo pluralista, ampio. Un progetto che tra l'altro anche, poi questa parte la finiamo qua, magari ne parliamo dopo sugli scenari editoriali e internet, un progetto che ha anche una struttura interessante dal punto di vista societario, voi chiedete anche la partecipazione dei lettori per sostenervi, un microazionariato, com'è la struttura? Diciamo, in realtà siamo nati pensando da subito a un modello in cui nessuno poteva avere quote di controllo del giornale stesso, della società che lo editava e quindi abbiamo circa 80 soci. Quindi tutti proprietari, nessun proprietario, insomma. Sì. Allora, guardando come avete messo sul sito oggi, inevitabilmente in questi giorni insomma, si parla dell'anno che si è chiuso, dell'anno che verrà. Ci sono delle curiosità anche. Per esempio a me ha colpito il 2013 avremo a tavola il primo animale OGM. Diciamo registriamo un progresso della scienza annunciato dalle riviste scientifiche, dagli studiosi che insomma dicono che si avrà finalmente un codice DNA integralmente OGM, questo è un punto d'arrivo. Io subito quando mi hanno raccontato questa notizia, che era ovviamente interessante, ho avuto una domanda, ma questo salmone potrà riprodursi autonomamente oppure no? E invece mi hanno detto che è sterile, quindi per il momento finisce lì. Finisce nel piatto. Nelle mani di chi, nelle mani, nelle teste, nei computer, nei laboratori di chi ha creato. Ma per te questa è una buona notizia o una cattiva notizia, perché? Beh, più l'uomo impara a fare cose, più è una buona notizia, quindi insomma essere capaci di tanto per definizione è una buona notizia, per come penso io le cose del mondo, la vita, queste cose qua. Poi invece, ecco, quello che richiede costante vigilanza, costante capacità di interrogare noi stessi su come utilizzare questi limiti mano a mano che li abbattiamo, cosa ne vogliamo fare. Sul fronte politico ci sarebbero tante, ci saranno tante cose da dire, tra l'altro. Questa è buona. 800 24 00 24, lo dico anche agli ascoltatori che più tardi cominceremo a chiamare, poi se vogliono fare qualche domanda anche a Jacopo Tondelli, che se ha piacere di restare con noi può anche rispondere, insomma, interloquire. Tra le altre cose, a parte la TV dell'anno prossimo, voi sintetizzate novità tecnologiche, ma contenuti vecchi, almeno per quanto riguarda forse... TV del terzo millennio per i device, quindi non più televisori, insomma, che supportano quella che era la TV... Volti del secondo millennio, quando ancora ne mancava un pezzo a raggiungere il terzo. Ecco, Fabrizio Frizzi è un po' l'emblema, diciamo. E questo però vale soprattutto per i canali generalisti, per la Rai e Mediaset. Sì, naturale, sì, che ormai col passare del tempo, come è naturale che sia, sono diventati anche il rifugio della, di lunghe abitudini, di chi non conosce, non vuol conoscere, non è interessato, non vuole scegliere, a cercare magari un'alternativa che somigli di più ai suoi propri gusti. Si può dire che tra la TV digitale, il TV satellitare o comunque l'offerta delle nuove piattaforme televisive e internet c'è un parallelo, cioè le scelte tematiche, le proposte, si chiede alle persone di essere più attive rispetto a come era la TV generalista, per esempio? Naturalmente sì. Poi se io penso che internet a un certo punto diventerà un sostrato della mentalità, e semplicemente quello che puoi scegliere lì non accetti più di non sceglierlo da qualche altra parte, quindi esattamente come lì sempre più si creano, no, generazioni di consumatori, spettatori, commentatori, sempre più portate a scegliere anche magari nel dettaglio ciò che vogliono, ciò che gli interessa seguire, ciò da cui hanno piacere anche di essere un po' disturbati e ciò che invece non vogliono proprio vedere. E tanto più questa diventa una mentalità condivisa e tanto più chi produce contenuti su qualunque piattaforma non potrà non tenerne conto. Sempre tra le cose che ci aspettano nel 2013 c'è un articolo, la Lega, per quanto riguarda la politica, alla prova insomma della, come dire, vivere senza Bossi. Che ci dici? Vivere senza Bossi, ma sai, qui arriviamo a un punto in cui 20 anni dopo, ormai pieni rispetto a quei primi anni 90, tanti nodi da sciogliere sono ancora lì, i personaggi portano tutti i segni del tempo, e però siccome in alcuni casi questi personaggi in realtà erano emblema di un tema reale, sentito, percepito, discusso nel paese dove stanno poi quelli che lavorano, quelli che non lavorano, quelli che votano, tutti insomma, ecco che capire cosa sarà del tema politico dell'Italia del Nord rispetto a quella del Sud e viceversa, adesso che quei personaggi sono evidentemente logorati dal tempo, dagli errori, da tutto quel che è successo, dalla fine addirittura di due repubbliche, non di una sola, ecco che diventa interessante capire cosa diventerà la Lega Nord, cosa riuscirà ancora a rappresentare di quello spirito, chi prenderà il suo posto, perché anche questo potrebbe succedere, succederà. Tra poco poi parleremo anche di politica, dell'operazione Monti, ti chiederemo anche un giudizio su questo. Invece, guardando all'anno che si è appena chiuso e restando un po' al tema che dicevamo prima, i nuovi mezzi di informazione, internet, insomma non è nuovo, però è nuovo il modo in cui le sfide che ci propone, insomma, per esempio questo incrocio tra siti di notizie e social network, la notizia più social del 2012, prima di tutto che cos'è una notizia social? Social è una notizia che ha un fortissimo potere di condivisione sui social network, e quindi è misurata come notizia più o meno social in base a quanto è capace di generare appunto condivisioni sì, insomma, propagazioni, quindi qualcosa che ci tocca in qualche modo, che, tanto da spingerci a condividerla con gli amici, a twittarla, a metterla su Facebook. Avete fatto un piccolo elenco che in realtà non l'avete fatto voi, ma l'avete ripreso. L'abbiamo ripreso, e come si vede sempre, insomma, in questi casi, si vede cosa più appassiona, cosa più è capace di viralizzare, come diciamo noi in gergo, indipendentemente da quanto poi è davvero più rilevante in base a criteri. Cose alte e cose basse. Io per esempio vedo, da siete distratti, avete un grande cervello. E allora questa cosa dell'Università di Londra, certo, queste cose un po' strane. Specializzate, no? Le università inglesi a regalare studi. Queste perle, sì, assurde, sì, no? Sì, oppure sì, quest'altra, ostie allucinogene, vecchiette sballate, vedono i santi. Bella, queste sì, cioè, questa, sono bellissime. Questa era molto bella perché era una bufala. Tra l'altro. Era una bufala, ma prima che ci si accorgesse che era una bufala lì. Si è riso per mezz'ora. No, tutti. Ma poi soprattutto tanta gente davvero, cioè, se ne è occupata in modo serio, chiedendo cosa era successo, come si faceva a raggiungere quel parroco che avrebbe riavvicinato le masse al cattolicesimo, no? Ecco, poi dopo ci si è accorti che, insomma, quello che non poteva, qui siamo ben contenti di dire, siamo stati tra i primissimi a dire che era una bufala, ma ancora giorni dopo e chissà però per correva quanto l'onda di chi ormai irrefrenabilmente credeva alla vicenda delle ostie allucinogene distribuite. Che facevano vedere alle vecchiette i santi. E però ci sono anche invece notizie importanti, tipo la bomba alla scuola di Brindisi, certo, o la blitz per la liberazione dei cani di Green Hill, gli animali poi anche qui su internet sono una fonte incredibile. Proprio la fine dei soldi per il progetto Erasmus. Qua paga anche l'età, non media forse. Questa è una cosa molto interessante, anche perché se ci pensiamo bene incrocia proprio un'esperienza generazionale forte condivisa da sempre più persone che hanno meno di 40 anni, da quando, insomma, anche meno di 35 per certi versi, dopo è diventata massiva la pratica dell'Erasmus, e in quel momento molti, non solo tra quanti ancora vogliono andare in Erasmus e beati loro sono nella fase in cui questo si può fare, ma anche di quanti hanno pensato a che esperienza formativa è stata per loro l'Erasmus. Ecco, a me colpì molto perché io sono uno di questi. Poi, tra le altre notizie, sempre le più social, secondo questa classifica, non so se l'abbiamo detto, chi è che fa questa classifica? Human Highway. Ok, c'è il taglio dei super stipendi da parte di Hollande, e quindi si parla del portafoglio, ma notizia politica importante. Poi il lancio dell'auto ad aria che fa 100 km con un euro. Questa è bellissima, ma non è una bufala anche questa? No. Questa è vera. Questa è vera. Questa cioè è sembra vera. Una bufala, noi in Italia che di Green Economy sui giornali ci occupiamo pochissimo, mi pare, no? Direi proprio di sì. Oppure solo nella chiave in cui tagliano gli incentivi, tornano gli incentivi. Ah, la cosa degli incentivi, certo. Poteva essere una delle notizie forse social o quantomeno più cliccate di quest'anno. Facciamo una brevissima pausa, poi ritorniamo in diretta con Jacopo Tondelli, direttore dell'inchiesta.it, e con gli ascoltatori all'800 24 00 24. 18 e 33 minuti, eccoci qua. Allora, mettiamoci d'accordo sul metodo, Jacopo Tondelli. Se hai piacere, comincio a sentire anche qualche ascoltatore e magari creiamo un po' di interazione. Concordo col metodo. Perfetto. Allora, sentiamo intanto chi sentiamo? Luca da La Spezia. Buonasera, Luca. Non lo sentiamo. Allora, sì, lo sentiamo. Eccolo qua. Buonasera, benvenuto, Luca. Buonasera. Buonanotte a tutti. Niente, io volevo commentare il discorso di fine anno di Napolitano, che trovo in maniera sorprendente nessuno ha fatto notare nella corte di consensi e di commenti positivi il fatto di aver lodato il governo Monti come un governo che è riuscito nell'intento di ridurre il debito pubblico, quando invece sappiamo tutti che proprio durante il governo Monti il debito pubblico ha oltrepassato la soglia dei 1.000 miliardi di euro. Quindi diciamo quello che era l'obiettivo primario e un obiettivo che è stato preparato con notevoli sacrifici e privazioni, in realtà poi è stato palesemente fallito. E credo che quindi il giudizio debba non eludere, non nascondere questo che era poi il succo del suo essere governo tecnico e di questa anomalia comunque politica del fatto di governo non eletto dal popolo. Va bene, insomma, lei sottolinea questo aspetto. Ora io non ricordo se Napolitano ha usato questa espressione ridurre il debito pubblico, non credo, perché sarebbe, come dice lei, sbagliata, anche se non le cifre esatte adesso forse non le sa ancora nessuno, però insomma il debito sta continuando a crescere, questo mi sembra evidente. Un altro ascoltatore, poi sentiamo Jacopo Tondelli. Luca da Milano, buonasera. Non lo sentiamo. Lo sentiamo Luca? No. Allora, Vito dalla provincia di Trapani. Sì, buonasera. Buongiorno. Eccolo. E qua. Allora, mi sente? Male, Vito. Se c'è un viva voce oppure qualcosa che non va. Allora, io torno da Jacopo Tondelli. Intanto recuperiamo anche gli ascoltatori. Questo nostro ascoltatore tira fuori la questione degli apprezzamenti di Napolitano per l'operazione Monti, non potrebbe essere altrimenti, l'ha creata lui. Però c'è questa questione del debito. In effetti, fra l'altro avete una bella infografica, siete sempre sul pezzo, sul debito pubblico, sfonda, come diceva l'ascoltatore, 2.000 miliardi. Allora, qui in realtà anch'io come te non ricordo esattamente l'espressione, penso mi avrebbe colpito ma posso sbagliare, insomma, quindi dopo vado pure a controllare assolutamente se davvero ha detto così il Presidente della Repubblica. Di sicuro ha avuto parole elogiative per il lavoro di messa in sicurezza dei conti dovuta al fatto in realtà fondamentalmente che appena salito a Palazzo Chigi il governo Monti ha fatto una riforma delle pensioni abbastanza rigida, drastica e in grado di dare una prospettiva di tenuta per gli anni a venire ai conti pubblici, a quel comparto di conti pubblici. E detto questo, sì, il debito continua a crescere, ma è piuttosto evidente che o sarà la politica davvero a farsi carico della questione del debito pubblico italiano, della ricostruzione, scomposizione e ricostruzione della nostra spesa pubblica, o non ci sarà nessun tecnico in grado di farlo, perché quando si va a parlare di dove si taglia, se non c'è un consenso pregresso solido, io non credo che si possa poi procedere davvero. E devo dire che da questo punto di vista il passaggio al nuovo anno e al nuovo regime del Monti politico al momento non dà tutta questa speranza di una chiarezza su questi temi cruciali, che non sono solo temi di bilancio pubblico ma anche di modello di sviluppo, di pensiero sul paese, eccetera, eccetera. Brutalizzando mi verrebbe così: detto che Monti è riuscito a imporre nell'agenda politica, grazie anche a Napolitano, il tema del debito mai come mai era stato in Italia, adesso però quando bisogna passare a tagliarlo davvero e a fare delle scelte politiche è tutto un altro paio di maniche, bisogna dire dove, come e perché. A proposito dell'operazione Monti, un altro dei vostri approfondimenti che mi ha colpito, perché è un tema che in questi giorni alla Zanzara abbiamo sollevato anche noi, è quello del personale politico, poi insomma basta leggere i giornali, che c'è attorno e dietro all'operazione Monti. Lui dice: io non sono né di destra né di sinistra ma sono un innovatore. Poi però ci sono dentro Fini, Casini, Cesa, Buttiglione, Ichino, parlamentari che hanno 30 anni di esperienza alle spalle. Questo è un elemento che secondo voi potrebbe offuscare, secondo te, un po' l'operazione di Monti? Direi proprio di sì, perché non conosco idee che camminino su gambe diverse da chi è chiamato a portarle avanti, quindi effettivamente io non sono né di destra né di sinistra, sono un innovatore e innovo appunto con Casini, con Fini, con un ceto politico che tra l'altro, adesso diciamolo pure, tutte le volte che ha provato a emanciparsi per andare a una sfida diretta misurando il proprio peso elettorale, ha sempre dimostrato quello che vale e soprattutto quello che non vale. Quindi se parliamo per esempio del partito di Casini, eternamente decisivo, eternamente anche vezzeggiato, tenuto in grandissima considerazione dai giornali, soprattutto dalla carta stampata, beh, però ci rendiamo conto anche che siamo di fronte a un prodotto proprio del palazzo e del sistema adesso più vicino del nostro paese. Ecco, in questo quadro è chiaro che lanciare una forza che deve innovare davvero e ripartire da Casini e da Fini può lasciare qualche perplessità, o più di qualche. Avete fatto qualche sondaggio, fatto fare qualche sondaggio, perché gli ultimi giorni hanno portato delle novità, si sa qualcosa di più dell'operazione Monti, che fino a qualche giorno fa era totalmente nebulosa, adesso è un po' meno nebulosa, mettiamo così, si comincia anche a cercare di capire quanto potrebbe valere. Ma io no, noi non abbiamo fatto fare sondaggi, però ogni tanto, insomma, capita, come a tutti quelli che fanno questo mestiere, di prendere informazioni da chi ha fatto sondaggi, da chi dice di averne fatti. Detto che da qui al 24 febbraio il cammino è davvero davvero lungo, quindi molto può cambiare, però in questo scenario, in questo quadro, molto dipenderà anche da Berlusconi, dalla sua capacità di recupero in quel voto, diciamo, magari dormiente, che non sarebbe più andato a votare per lui, ma comunque non sarebbe passato a votare per nessun altro. Ma insomma, non è impossibile pensare che al momento il polo Monti, chiamiamolo così, i montiani né di destra né di sinistra, possano arrivare anche quarti nella competizione. Una cosa un po' deludente per chi si candida venendo da una posizione di presidenza del Consiglio, cioè di capo del governo, insomma. Certo, se così fosse sarebbe però se così fosse deludente. Esattamente. Sentiamo un ascoltatore, Luca da Milano, vediamo se stavolta riusciamo a sentirci. Luca? Sì, buonasera, buon anno, speriamo, va bene? Sì, la sentiamo stavolta. Benissimo. Perfetto. No, sono un paio di considerazioni, mi sono venuti già in mente ai tempi dell'insediamento del processo tecnico, del governo tecnico. Quando ho sentito un Bersani dire: se andavamo alle elezioni noi avremmo vinto tranquillamente, ma per senso di responsabilità lasciamo che sia qualcuno a subentrare, eccetera. Quello che vota da quella parte, cioè non sta facendo indicazioni, eccetera, se fosse io. Ma come? È il momento che dove? Cioè, l'Italia è una situazione particolare, eccetera, finalmente uno dovrebbe dire: è la nostra occasione, dai, subentriamo, cerchiamo di sistemare le cose. No, è così delicata la cosa che per senso di responsabilità l'avrò sporco, lo faccio fare un altro. In più poi ti senti un momento che, come Fini, dice: no, io sono tecnico, non mi candiderò mai, di qua. Cioè, praticamente è qualcosa che contagia veramente la politica, il senso come, non so, rivinta come quotidiano, perché con chiunque si parla è tutta gente che aveva prima un lavoro, un'attività, guadagnava l'ora di Dio, ci rimette non so quanto a darsi in politica con tutte le responsabilità. Se così fosse, per forza andiamo male. C'è un paese governato da masochisti dove chi potrebbe star bene o sta bene da affinarsi entrando in politica, dove guadagna di meno e lavora di più. Cioè, mi fa tanto questo segmento, io so che sono ridicolo, perché non dovrebbe fare uno o l'altro? Sì, che va bene, Luca, tra l'altro non si sentiva neanche benissimo, per cui vediamo se qualche ascoltatore invece coglie quello che diceva lei. Un'altra sentiamo un altro ascoltatore intanto, va, sì, dai, Mario da Torino, buonasera. Sì, salve. Ecco. Come voi ci sente? Pronto? No, stasera abbiamo proprio, siamo partiti malissimo con gli ascoltatori. Si sente male. Si sente male. No, Mario, non lo sentiamo. Abbassiamo Mario perché si sente l'eco, non so che cos'è, cioè la viva voce. Togliete sempre il viva voce, ascoltatori, perché sennò non si capisce nulla. Torniamo a Jacopo Tondelli, direttore dell'inchiesta.it. Mai come questa volta, in queste elezioni, la regione Lombardia sarà decisiva. Insomma, chi ha disegnato il sistema elettorale, Calderoli, manca a farla apposta, sembra che abbia concentrato l'attenzione proprio sulla Lombardia, perché porta un sacco di seggi col premio di maggioranza al Senato, e tra l'altro questa volta c'è l'effetto anche elezione per il candidato presidente. Quindi un momento nel quale questa regione così importante è davvero al centro di tutto il quadro politico, con Maroni, Ambrosoli e Albertini candidati, uno specchio della politica nazionale, perché Albertini di fatto è diventato il candidato montiano. Cosa ti suggerisce questo quadro? Mi suggerisce che, vabbè, in Lombardia, che poi appunto è la nostra regione, quella in cui cui io personalmente sono nato, cresciuto, si vive una situazione strana per cui la decisività della Lombardia, che è assolutamente come l'hai descritta tu in base alla legge elettorale sul Senato, non sembra generare un movimento politico rinnovatore, capace anche di cambiare un po' gli equilibri e riportare Milano e la Lombardia ad essere il traino, no? Un po' egemoni nel paese, essere loro da modello. Invece no, qua assistiamo al centro-sinistra che candida una personalità della società civile, un candidato puramente civico come Umberto Ambrosoli, lo candida facendo scelte simboliche analoghe a quelle fatte 20 anni fa a Milano con Dalla Chiesa. Siamo in quell'onda culturale, nell'onda insomma della Lombardia degli onesti, dopo che si sono viste tante cose brutte che non funzionavano. Questo più o meno era nel 92 dopo Tangentopoli ed è dopo 20 anni di Formigoni e Berlusconi quello che si dice dalle parti del centro-sinistra lombardo. Ma la vera speranza che si ha da quelle parti è di vincere grazie a un risultato nazionale e per assenza di avversari forti, credibili, nuovi e soprattutto compatti, perché è chiaro che la candidatura di Albertini, che è stato sindaco, ricordiamolo, dal 95 al a cavallo del 2000, per due mandati pieno a Milano, è un ritorno indietro, ovviamente, solo che adesso Albertini non è più il candidato di Berlusconi, ma è il candidato che si appoggia all'area montiana, all'area quindi dei centristi. E poi c'è Maroni con la Lega che torna alle origini, sempre che ci torni davvero, vedremo, le trattative hanno ancora un po' di tempo tra leghisti e Berlusconi per capire cosa fare di questa ex alleanza, che vanno per conto loro. Ecco, in questo scenario mi colpisce vedere come di fatto Milano e la Lombardia affidino il proprio destino, i propri equilibri futuri a quello che in qualche modo succederà a livello nazionale, e quindi scommettendo su una vittoria del centro-sinistra di Bersani più il centro che fa riferimento a Monti. Allo stesso modo e dentro uno scenario analogo bisognerà capire dopo come governare insieme qua, qualora e là a Roma, qualora i numeri non consentissero di governare poi da soli, cosa peraltro improbabile per la legge elettorale regionale. E cosa succede? Succede che poi tutto questo sarà decisivo a livello nazionale per i voti, ma non è certo lo scenario lombardo e regionale a far da traino a questo scacchiere, insomma. 800 24 00 24, tra poco ancora con i vostri interventi. Adesso facciamo una pausa per il traffico, torniamo tra poco. E allora sentiamo un paio di interventi. Alessandro da Milano, buonasera Alessandro. Io mi chiamo Alessandra. Alessandra, mi scuso, ho sbagliato io, Alessandra. Auguri di buon anno a tutti. Anche a lei. Grazie. Prego. Ma io ho paura di scontentarla un po', perché la sento da qualche giorno, sento che lei è molto a favore di Monti e di Napolitano. Io li adoro entrambi, andrei in vacanza con loro tutta la no, vita. No, ma sì. È bene, perché così almeno si sa, e uno si regola, ognuno dice il suo. Insomma. Vabbè, questo lo dice lei che io sono a favore di Monti e Napolitano. Ma beh, Napolitano, sente, ieri, quando è finito, ieri quando è finito il discorso ho detto, vi ricordate cosa ho detto? Ho detto, se c'è ancora qualcuno all'ascolto, perché il discorso è stato noioso. Io ho detto questo, sì, su è stato Napolitano. Un po' univoco, sì. Non so come mai. Vabbè. Questo per dire quanto sono a favore di Napolitano. Prego, Alessandra. No, tutti a favore di Monti. Sì. Ma, no, io dico che assolutamente. Intanto, comunque, avete parlato della Lombardia, quindi faccio già una dichiarazione: voterò per Ambrosoli. E non vedo. Questa la mettiamo agli atti. Questa qua la mettiamo. Sì, Alessandra vota per Ambrosoli. Io non vedo alternative. Mi sembra, tra l'altro, una persona degna. Dunque, per quanto riguarda il discorso di Napolitano, io ho 57 anni, potrei dire che poteva essere trasmesso un discorso di 30 anni fa, sarebbe stata la stessa cosa. Sempre si parla di crisi, di tagli, di risparmi, di austerity, di giovani a cui dare spazio, e sono sempre le solite generiche stupidaggini. Questo è un po' inevitabile, Alessandra, sa, non è solo Napolitano, qualunque capo dello Stato, finché c'è questo rito del discorso del capo dello Stato, io credo che chiunque lo farà finirà per fare questo tipo di discorsi. Registrazione, perché si sentono sempre le stesse cose. Voleva dire qualcos'altro, Alessandra, oltre a commentare Napolitano, o ci salutiamo qua? No, sì, io volevo dire che il governo, intanto rischio di non andare a votare, perché se sento parlare di governo Monti bis addirittura prima del voto mi domando se c'è un problema di democrazia, perché il governo dovrebbe uscire dal risultato del voto, quindi non deve essere una delle ipotesi, Alessandra, dal capo dello Stato prima, perché altrimenti finisce davvero che non si vuole più votare, se non serve a nulla. Secondo lei c'è una forzatura verso il Monti bis da parte di Napolitano, per esempio? Ma certo, c'è una forza, ma non solo da parte di Napolitano, da parte di altri poteri forti. Monti è uno che, il montismo tra l'altro, è un sistema per cui ti dice io sarò equo, e quindi poi ha pesantemente anche tra l'altro bloccato le pensioni, perché da 1.400 euro lordi non sono più saliti, non in base all'Istat, mentre i canoni d'affitto, i costi eccetera invece salgono con l'Istat. E però nello stesso tempo tiene lo scudo fiscale, e quindi qui siamo a Milano vicino alla Svizzera, quindi chi vuole continuare a speculare in anonimo con i grandi capitali lo può continuare a fare. Il montismo è uno che ti dice io sarò equo, farò così. Dopodiché Napolitano ha anche osato parlare di, come sempre tra l'altro, di avversione contro il sistema delle raccomandazioni, delle conoscenze, dei sistemi per avviare ai problemi di merito, ma non so, dico, questo governo con il bandire concorsoni, cioè le cose che ha fatto, insomma. Che c'entra il concorsoni con questo? Vabbè, Alessandra, grazie, mi sembra che di carne al fuoco ne abbia messa abbastanza. E esprime Jacopo Tondelli, a questo punto ti do la palla a te, l'opinione di una parte, almeno degli italiani, su Monti, i poteri forti, bla bla bla, eccetera eccetera. Certo, questa è un'immagine che Monti si porta dietro e come dire, nella misura giusta e ben spiegando e circoscrivendo ciò di cui si sta parlando ha anche senso. È chiaro che Monti è stato anche il rappresentante di una elite italiana, di una elite culturale, economica, sociale italiana, che a un certo punto è stata anche più o meno esplicitamente invitata a prendersi una responsabilità dopo tante critiche, dopo tanti fastidi, dopo l'evidente fase finale non più gestita dal punto di vista politico del berlusconismo. No, quindi in questo senso c'è ovviamente una verità di cui non bisogna aver paura a parlare, come ogni tanto capita. Voglio dire, Mario Monti era editorialista da qualche decennio del Corriere della Sera, era a capo dell'Università Bocconi. Non va nemmeno dimenticato però che Mario Monti è stato lanciato come figura pubblica e come, diciamo, anche riserva della Repubblica da Silvio Berlusconi nel 94, che lo scelse per l'Europa. Detto tutto questo, ecco, un conto è riconoscere in modo abbastanza chiaro da che tipo di mondo venga Mario Monti, un altro conto è pensare che sia sempre attivo ad agire un complotto che qualcuno genera in poche stanze dove si trovano tre o quattro persone e decide del destino dell'Italia sopra la testa degli italiani, tanto che dipenderà in fondo dagli italiani e dal loro voto se Mario Monti sarà ancora Presidente del Consiglio la prossima volta oppure no. Se lo voteranno tanti lo sarà, diversamente non potrà esserlo, non lo sarà, e tra l'altro difficilmente dopo una campagna elettorale che immagino e in qualche modo spero dai toni liberi, accesi, che faccia emergere le differenze di idee, di progetti e di programmi, dopo quella forse non gli sarà neanche facile essere candidato alla presidenza della Repubblica. Mm. Hai dato un'occhiata all'agenda online di Monti? Io sì, mi ha colpito una cosa, mi ha colpito questo riferimento, ma insomma è ovvio, all'Europa, però ripetuto in maniera ossessiva, lui anche ieri ha scritto un post, ha detto: io non sono né di destra né di sinistra, sono uno che guarda all'Europa. Adesso, in però, Europa ci sono la destra, c'è e la di tutto, sinistra, esatto. In tutti i paesi d'Europa. Ha fatto bene secondo me Bersani a dirgli, però tu in Europa dove ti metteresti, da quale parte ti siedi? È ovvio che in tutta Europa, sì. Prego. No, no, vai, vai. No, in tutta Europa ci sono la destra e la sinistra, non è che Monti si deve come dire, per essere europeo deve dire da che parte sta, insomma, perché più o meno funziona così nelle democrazie europee. E in generale nelle democrazie del mondo, ecco, il dire io sto con l'Europa, mi spiace, ma qui finisco col dar ragione all'ascoltatrice di prima, sembra un po' un dire: dopo le elezioni governerò con chi condivide l'idea fondamentale che l'Europa è una cosa seria, che dall'Europa non ci si può chiamar fuori, che dall'Europa non si può uscire dicendo quattro stroppole sul ritorno alla lira o sul grande complotto dei plutocrati banchieri europei. Quindi in questo senso sì, devo dire che partire declinando la parte principale della propria identità con la fedeltà all'Europa è una cosa talmente vaga, talmente anche un po' arida, no? Perché insomma emozioni zero, tra l'altro insomma, persino Napolitano, ecco, c'è un barlume di luce che vedo adesso a 24 ore di distanza dal discorso di Napolitano, che ha detto l'Europa va accettata, ma va anche, non mi ricordo l'espressione che ha usato, l'Italia concorra a riformare farla l'Europa, a crescere, a farla diventare più. Sì. E questa era una stoccata a Monti, cioè devi dire tu che ti candidi alle elezioni che Europa vuoi, non che vuoi stare in Europa e basta, no? Questo è proprio quello che dicevi tu anche. Sì, assolutamente, sì. In questo, ecco, sì, non c'è dubbio che una delle funzioni che si fa fatica a vedere da fuori, ma tutti gli osservatori più attenti la riconoscono a Monti, è che lui in Europa davvero è fondamentale per gli equilibri e per le mediazioni tra Hollande e Merkel, con la Commissione, guardando più su, guardando nelle varie istituzioni, perché è un uomo che conosce perfettamente quella lingua, anche quella liturgia, non c'è dubbio, quella diplomazia. Certo che anche a me piacerebbe esprimere una politica capace di stimolare l'Europa a diventare qualcosa di un po' più comprensibile a tutti, anche perché sennò diventa difficile difenderla un'Europa così tecnica, arida e che non si capisce bene cosa esiste al mondo a fare. Jacopo Tondelli, tra poco ci fermiamo per il giornale radio, ti salutiamo. L'ultima Grazie. Domanda che ti voglio fare è questa: abbiamo parlato molto, forse troppo, di Monti, il resto è la novità più grossa. E invece le primarie del PD come ti sono sembrate? Un'operazione comunque positiva? Quali primarie del PD? Le ultime. Le ultime dei parlamentari. Quelle, dici, praticamente che non si sono viste. Le ultime del 29-30. Ma allora, in un minuto, perché poi dobbiamo chiudere. Ci sono molti aspetti critici di quelle primarie e in generale del processo di democrazia interna che il PD ha istituzionalizzato con le primarie ad ogni livello, però non si può negare che, salvo chi ha voluto la deroga e salvo chi si è fatto paracadutare lontano dai propri collegi di vita politica, diciamo così, in gran parte hanno obbligato comunque il vecchio ceto politico a confrontarsi col nuovo, con chi bussava, con chi provava a entrare, con chi voleva dir la sua, e insomma, tra mille difetti che questa esperienza ha avuto, però segnala un rinnovamento che sarà concretizzato anche dall'ingresso in Parlamento da persone che non ci sarebbero mai arrivate diversamente. Grazie, ci fermiamo qua, grazie e buon anno Jacopo Tondelli, Giornale Radio, torniamo tra pochissimo. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, ci annoiano, son di sinistra. Ma cos'è la destra? cos'è la sinistra. 10 anni esatti dalla scomparsa di Giorgio Gaber, una scelta quasi obbligata questa per commentare un po' questo inizio d'anno con la campagna elettorale già iniziata alle porte e anche volendo mettere a confronto i discorsi del re Giorgio Napolitano, come qualcuno lo chiama, il capo di tutte le istituzioni, il più alto rappresentante politico, e invece Beppe Grillo, che con il suo discorso di fine d'anno consueto ormai sul suo blog fa un po' da contraltare come re dell'antipolitica. Mettiamoli ancora a confronto, Grillo e Napolitano. Signori, veramente un felice anno nuovo, si fa per dire, perché di felice ci sarà la dipartita di questa gente che non se ne vuole andare. È finito un anno catastrofico per Rigor Montis, si ripropongono tutti quelli che hanno disintegrato questo paese. Sono di merda più che di sinistra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Il senatore Monti ha compiuto una libera scelta di iniziativa programmatica e di impegno politico. Egli non poteva candidarsi al Parlamento facendone già parte come senatore a vita. Poteva e l'ha fatto, non è il primo caso nella nostra storia recente, patrocinare, dopo aver presieduto un governo tecnico, una nuova entità politico-elettorale che prenderà parte alla competizione al pari degli altri schieramenti. D'altronde non c'è nel nostro ordinamento costituzionale l'elezione diretta del primo ministro, del capo del governo. Il presidente del Consiglio dimissionario è tenuto, secondo una prassi consolidata, ad assicurare entro limiti ben definiti la gestione degli affari correnti e ad attuare leggi e deleghe già approvate dal Parlamento nel solco delle scelte sancite con la fiducia dalle diverse forze politiche che sostenevano il suo governo. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia. 800 24 00 24, il numero verde anche questa sera per poter intervenire in diretta. Tra poco riprenderemo con i vostri interventi. Adesso salutiamo con piacere Lorenzo Dell'Ai. Buonasera. Buonasera, ex presidente della provincia di Trento, ex da pochissimi giorni, perché si candida, uno degli animatori della salita in politica di Monti. Ho detto bene? Ha detto bene, soprattutto salita, naturalmente. Beh, ormai è cambiato il lessico proprio, il lessico del linguaggio politico da questo punto di vista, insomma, poi per chi vuole usare questa espressione, però è stata una trovata azzeccata, non casuale. No, ma non è neanche una trovata, è un ritorno ad una normalità. Peraltro noi abbiamo sempre pensato così, che la politica fosse un modo esigente di vivere la carità, dicono i padri della Chiesa, e comunque un modo per servire la comunità. Ecco, mi pare l'aspetto simbolico è ben evidente, però mi pare importante, perché anche di simboli si vive, i simboli sono importanti per far capire la sostanza. Lei tra l'altro, insomma, è uno degli animatori, adesso ci dirà anche in che veste, come. Tra l'altro lei è stato un po' preceduto i tempi, ha fatto la Margherita prima della Margherita, è stato coordinatore dell'API, cioè il partito di Rutelli, che ha in qualche modo anticipato operazioni centriste come quella di Monti. E adesso in che ruolo lei è coinvolto in questa vicenda? Sarà candidato? Ma, guardi, intanto è un ruolo di co-promotore. La cosa è nata qualche mese fa, in agosto ci siamo trovati qui a Trento, proprio il 19 di agosto, anniversario della morte di De Gasperi, con un gruppo di amici, il presidente delle ACLI, il segretario della CISL, il ministro Riccardi. Abbiamo avviato un percorso, ci siamo poi incrociati con Italia Futura del presidente Montezemolo, che aveva fatto un percorso diverso ma abbastanza simile, e ci siamo poi incrociati con altre realtà che nel frattempo hanno visto nella figura del presidente Monti un possibile punto di riferimento. Quindi io vedo anche un po' di continuità anche con la mia storia personale, perché è sempre stata alla ricerca di quell'incontro fra popolarismo, liberalismo, riformismo, che un pochino nel bipolarismo di questi ultimi 15-20 anni risultava difficile scorgere. Io tra l'altro le voglio fare i complimenti anche perché conferma su Italia Oggi di ieri la classica classifica di fine anno in collaborazione con l'Università La Sapienza, un po' come quella che fa il Sole 24 Ore sulla qualità della vita. La provincia di Trento si conferma in testa. Quindi insomma, poi so già cosa penseranno gli ascoltatori. Beh, facile coi soldi delle regioni a statuto speciale, eccetera, eccetera. Non lo so. Però ma intanto guardi, è un pensiero da correggere anche questo. Primo, perché non siamo certamente gli unici ad avere un regime particolare. Ci sono altre regioni in Italia che hanno magari ancora più autonomia di noi e certamente non possono esibire risultati così. Ma poi vorrei anche far notare che non sono solo statistiche che riguardano indicatori materiali. Se abbiamo queste, se siamo ai vertici di queste classifiche, soprattutto perché c'è un certo tipo di società civile, di cultura civile, e quella non sono i soldi che la fanno, semmai i soldi rischiano di comprometterla. Da noi per fortuna così non è stato, e sono certissimo che la stragrande maggioranza dei motivi per i quali siamo ai vertici di queste classifiche non dipende dalla pubblica amministrazione, ma dipende dalla comunità, da come si muovono i cittadini e anche dallo spirito che c'è nella nostra comunità. Tra l'altro, cari ascoltatori, all'800 24 00 24, se abitate a Trento, chiamateci. Se abitate invece, per esempio, a Imperia, che è l'ultima in classifica, chiamateci pure, perché voglio capire come mai Imperia... vabbè, c'è anche Napoli in coda alla classifica, però a Napoli forse si può intuire qualcosa. Adesso c'è di nuovo la questione dei rifiuti, c'è la questione della sicurezza, ma a Imperia, che cosa succede a Imperia per cui sono in fondo alla classifica della qualità della vita? Italia Oggi, Università della Sapienza, sul giornale di ieri, 800 24 00 24, però questa era solo un'incursione, perché noi con Lorenzo Dell'Ai, ex presidente della provincia di Trento, vogliamo capire qualcosa anche un po' su, insomma, c'è stato un po' di mistero intorno alla salita in campo di Monti, perché è stata accelerata negli ultimi giorni ed è tutto un itinere. Prima di tutto, quante potrebbero essere le liste che appoggeranno Monti alla Camera? Ma guardi, saranno certamente due, ma probabilmente anche qualcuna in più. D'altra parte però questo punto delle liste mi sembra importante certamente, ma un pochino secondario, ecco. Beh, però perché... se la interrompo, poi naturalmente la faccio proseguire. Prego. Però sono dettagli che hanno il loro valore, anche perché, come ha detto Monti, io sto alle parole di Monti in conferenza stampa, è stata una scelta anche per rispettare le identità politiche che ci sono in campo, e quindi è giusto capire quali sono queste identità politiche. Lei ha detto due liste, una sarà dell'UDC sicuramente. Ma guardi, la cosa più sicura sembrerebbe una lista dell'UDC, che è un partito che già esiste, come noto, che ha appoggiato il governo Monti in questa fase, e l'altra lista sarà promossa da questo nostro movimento, si chiama attualmente Verso la Terza Repubblica, vedremo quale sarà il nome della lista, ma sostanzialmente sarà una lista che in gran parte presenterà dei candidati nuovi, non provenienti dall'attuale Parlamento, espressione soprattutto di realtà sociali, culturali, amministrative locali, imprenditoriali. Quindi queste sono le due liste che oggi certamente sono in campo, ma è molto probabile che possano esserci anche altre realtà. Per esempio ex PDL o ex PD. Sì, noi abbiamo visto in queste ultime settimane che tante persone, non solo i nomi più noti che i giornali hanno evidenziato, ma anche tante persone meno conosciute dei due partiti, PDL e PD, si sono dimostrate molto interessate a questa nostra proposta, quindi non si può escludere che ci siano anche delle presenze un pochino organizzate in questo campo. Del resto è una fase di grande trasformazione questa, e il fatto che ci siano più liste alla Camera deriva anche dal fatto che oggi non esiste un partito organizzato che si richiami a Monti, ci sono varie realtà, varie esperienze, non è escluso, anzi è probabile che tutto questo nel prossimo futuro si traduca anche in una forza più organizzata, politica, sì, vera e propria. Ma per ora siamo, sì, in presenza di un rassemblamento elettorale che però ha un'anima politica, mi pare, molto precisa. Non per farla arrabbiare, però per restare ancora un secondo sulla questione delle liste, Futuro e Libertà, in tutto questo alla Camera svanisce o avrà una sua lista? Questo non, io in questo momento non lo so, sì, può anche darsi che presenti una sua lista, certamente Oppure libertà ha alle spalle un percorso anche politico che è molto diverso, per esempio, dal mio, quindi è anche giusto che ci sia questa diversità, proprio per rappresentare il fatto che ognuno parte anche da punti di partenza. Quindi non è detto che ci sia una lista di Futuro Libertà che sostiene direttamente questa operazione, perché abbiamo letto fino ad ora solo indiscrezioni sui giornali di un possibile dividersi la strada tra Fini e Casini, che fin qua per molti aspetti, non tutti sicuramente, avevano marciato invece certo con Fini un pochino più un passo indietro, però diciamo passo unito. Adesso invece io non ho capito se Fini sosterrà o no apertamente Monti, anche se lui ha detto di sì. Forse ma siete guardi, voi che non volete Fini. No, è questione di non volere. Questione che naturalmente c'è un percorso molto particolare che questa forza politica ha alle spalle. Decideranno poi loro se fare una lista, se non farla, insomma, non credo che siano decisioni che si possono né imporre né suggerire dall'esterno. Quello che stiamo facendo noi è un percorso diverso, perché parte più che non dalle forze presenti in Parlamento, parte dalle realtà che sono presenti sulla comunità. Quindi noi ci occupiamo di questo, e l'importante credo è che abbiamo trovato nella figura di Monti e nell'agenda Monti un punto di riferimento che ci aiuta ad avere questo linguaggio comune, che è poi quello credo che interessa gli italiani, perché la preoccupazione è molto forte, perché il futuro certamente è un futuro tutto in salita, e quindi il riferimento a Monti e alla sua agenda è il riferimento ai temi fondamentali del paese. Poi dopo come si organizza elettoralmente la politica è importante, certamente sì, ma non può essere il primo punto del ragionamento, perché altrimenti diamo l'idea di parlare solo di noi stessi e non dei problemi degli italiani. Però sa, le idee viaggiano sulle persone che le portano avanti, questo per citare gente molto più importante di me. Però non temete da questo punto di vista un po' l'effetto ammucchiata? Perché in effetti parliamo di persone che provengono dall'ex PC come Ichino, all'ex Alleanza Nazionale come Alfredo Mantovano, fino a passare a ex Democristiani, eccetera eccetera. Ma adesso lei mi fa dei nomi che io non so se saranno presenti nelle liste. Quello che è certo, beh, Ichino è stato detto che probabilmente sarà capogruppo addirittura in Lombardia. Ma pare che il senatore Ichino abbia sostenuto delle posizioni da sempre molto in sintonia con l'agenda Monti. Quindi più che non di una mucchiata, salvo che poi appunto i nomi si dovranno vedere, ma più che di una mucchiata si può parlare semmai di un superamento delle mucchiate di prima, perché in realtà era il bipolarismo, così come l'abbiamo conosciuto, che metteva insieme tutto il contrario di tutto pur di vincere con un voto in più sull'avversario. Dopodiché c'è anche da dire che il Presidente Monti ha però anche posto dei criteri molto precisi per la formazione delle liste, e quindi io credo che alla fine noi avremo una compagine anche fortemente rinnovata, e soprattutto una compagine che punterà in maniera molto particolare e molto forte, soprattutto attraverso la nostra lista, a persone che non fanno parte dell'attuale Parlamento e quindi che possono portare anche una ventata di novità e un punto di vista maturato non dentro il palazzo ma al di fuori. Senta, lo chiedo a lei, che sono molti anni che fa politica proprio in questa direzione, cioè la ricerca di convergenze e con progetti diciamo centristi, no? Senza usare questa parola in termini negativi, ma questa operazione che state facendo farà nascere poi un partito, Monti ha detto un movimento civico, oppure è un'operazione emergenziale che finisce con la prossima legislatura? No, guardi, intanto è un'operazione che cerca di superare un'emergenza che si è sfociata poi in questo governo tecnico, quindi non è il governo tecnico che si ripropone alle elezioni, questa è una cosa totalmente nuova, ha un'ambizione di aprire un ciclo politico di lungo periodo, e questo bisogna che sia molto chiaro, quindi parte dai dati dell'emergenza, ma immagina un percorso che sia di lungo periodo, e in questo senso certamente dovrà trasformarsi in un soggetto pienamente politico. Oggi è un rassemblamento, perché non si poteva fare molto di più in un paio di mesi, anzi meno, però ci sono dei punti molto forti che riguardano le culture del popolarismo, del liberalismo, del riformismo, il superamento anche di vecchie terminologie. Non è solo il simbolo del salire in politica, il Presidente Monti è anche detto, noi non ci riconosciamo nelle parole un po' vecchie di centro, di moderati, tutte queste cose qua. Quindi è certamente un progetto che ha un'ambizione politica, pienamente politica, e io sono sicuro che dopo il voto ci sarà un processo di costruzione di un vero e proprio soggetto politico di matrice popolare liberale. Monti ha detto che non deve rispondere a Bersani quando gli chiede in Europa dove si schiererebbe, però questo soggetto politico di cui lei parla, in Europa, dove si siederebbe, glielo chiedo io, tra i popolari o no? Ma guardi, l'importante è schierarsi per l'Europa, e questo è il primo punto fondamentale, perché in Italia non è così scontato che la politica veda nell'Europa un punto di riferimento e non invece una minaccia o un vincolo da indicare anche al popolo come negativo. Però facendo... Quindi il primo punto sì. è l'Europa, dopodiché io penso che anche le cosiddette grandi famiglie europee, se posso dire, sono diventate un pochino dei grandi raccoglitori nei quali c'è tutto il contrario di tutto. Quindi quello che io penso, quello che io immagino, è anche che nella grande famiglia del popolarismo europeo forse un piccolo chiarimento dovrà esserci, perché... Cioè potrebbe essere l'operazione Monti, il partito intorno a Monti, l'embrione di qualcosa che cambia anche nei soggetti politici, guardi, in Europa, ad aggregare guardi, chi? Se mi concede questa espressione, sì, le direi così. Mi sembrerebbe un contributo quello che sta facendo Monti in Italia insieme con tante persone, mi sembra un contributo a ripristinare forse anche a livello europeo un concetto di popolarismo che si avvicini molto di più a De Gasperi che non a Berlusconi, se proprio vuole. Cioè, ma il problema è Berlusconi in Italia, perché se non ci fosse Berlusconi ci sarebbe un polo moderato, magari guidato da Monti, che starebbe tranquillamente con i popolari, forse. No, guardi, non penso che il problema sia l'ha detto Berlusconi. Lei. Il problema è semmai che in Italia questo concetto, che io non uso, questa parola che io non uso mai per questo, di moderati, non ha rappresentato nell'immaginario collettivo attraverso questi 15-20 anni un'area di cultura politica democratica, europeista, riformista, di matrice popolare, no, ha rappresentato qualcos'altro. Il motivo era battere la sinistra e quindi tutti insieme pur di battere la sinistra. Non è questa la visione De Gasperiana del popolarismo. Quindi semmai bisogna dire che non è solo la questione Berlusconi, è la questione di una cultura politica che in questi anni ha piuttosto travolto i principi, diciamo, di questo popolarismo liberale e ha immesso dentro nel dibattito politico delle forzature di radicalità, di estremismo, di anti-europeismo, di populismo, di demagogia, che non hanno veramente nulla a che fare con la matrice degasperiana della politica. Senta, quando Bersani dice che lui vorrà fare l'agenda Bersani è l'agenda Monti con più equità, con più attenzione alle fasce deboli, lei condivide o no? Ma guardi, non solo condivido, ma io penso che questo sia il problema degli italiani, il problema del nostro paese. Per questo dicevo prima, la nostra proposta non è il governo tecnico trasformato in proposta elettorale. La nostra proposta è una visione nuova, diversa, che certo parte però, questo è il punto, parte da una esplicita e assolutamente inequivocabile conferma di questa linea della, diciamo, del rigore e della serietà anche finanziaria. Non c'è dubbio che da lì bisogna partire per metterci dentro però che cosa? Appunto, una prospettiva di speranza, di fiducia, la possibilità per tante persone di veder migliorare la propria condizione. Questo è il grande obiettivo che tutte le forze politiche devono darsi e che certamente non è un'esclusiva del centro-sinistra, è un obiettivo che è profondamente dentro anche il progetto politico che stiamo portando avanti noi. Il nome del movimento civico di cui parla Monti è, qual è? Quello che lui aveva detto in conferenza stampa, agenda Monti per l'Italia? Ma guardi, non è stato ancora definito, lo sarà in questi giorni, tenendo conto che avendo così poco tempo a disposizione naturalmente bisogna fare delle scelte che siano anche molto, molto efficaci dal punto di vista comunicativo. Penso che nel giro di qualche giorno certamente ci saranno i nomi delle varie liste, compresa quella che proponiamo noi, e ci sarà anche un logo comune che sarà invece usato per la lista al Senato, posto che sul Senato si è convenuto di fare un'unica lista che rappresenta tutte le componenti che sostengono il progetto. E al Senato la lista unica, però ci saranno dentro anche i politici, naturalmente. Lei ha detto che alla Camera la lista vostra non avrà politici, però al Senato ovviamente Non avrà politici, non avrà diciamo rappresentanti e parlamentari uscenti, perché politici in realtà quando uno si candida vabbè, evidente, parlamentari uscenti, parlamentari diciamo, uscenti. Ecco, sì, non avrà rappresentati gruppi parlamentari uscenti per la semplice ragione che non esistiamo in questo momento all'interno del Parlamento. Mentre sul Senato è ragionevole che ci sia una lista unica e dunque è ragionevole che possano trovare ospitalità persone che hanno ben meritato nel servizio della politica, perché certamente non possiamo dire che il mondo si divide in due parti, i politici e i non politici, no? Quindi io penso che anche in questo Parlamento ci siano persone che hanno lavorato bene, che hanno fatto seriamente il loro lavoro e che giustamente possono anche continuare se gli elettori confermeranno la fiducia su questo percorso. Va bene, grazie, buona serata. Lorenzo Dell'Ai, ex presidente della provincia di Trento, adesso, come avete sentito, tra i promotori dell'Agenda Monti per l'Italia. Facciamo una brevissima pausa, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24, tra un attimo, adesso titoli del TG3. L'ultimo discorso di fine anno di Napolitano, mettere al centro la questione sociale, e sul futuro di Monti dice ha fatto una libera scelta. Sul sito del governo il bilancio di un anno di lavoro. Giù lo spread, prospettive migliorate. Berlusconi, Monti, un liderino come tanti. Da oggi scatta la riforma delle pensioni, un anno e 3 mesi in più prima di lasciare il lavoro. Per CGIL, CISL e UIL la crisi non è alle spalle. E il 2013 comincia con migliaia di posti di lavoro a rischio. Dall'ILVA all'Alcoa, l'amara eredità di un 2012 segnato da manifestazioni e proteste estreme. Negli Stati Uniti ancora nessuna decisione sul voto alla Camera per evitare il baratro fiscale. In ballo c'è il testo dell'accordo approvato in extremis al Senato. Arrestato il quarto uomo della banda che ha rapito Calevo. 7 le persone coinvolte nel sequestro e c'è chi collabora con i PM. Andrea, domani torno al lavoro. E anche il 2013 inizia con una folle notte di botti. 2 persone uccise dai petardi in Campania, almeno 360 feriti in tutta Italia e 53 sono bambini. Sentiamo Leone che ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera a voi, sarò molto breve. Appena detto una notizia sul baratro fiscale, sul fiscal cliff che tutti quanti temono nel mondo che sia non solo recessivo ma addirittura depressivo. Bene, quello che ha fatto Monti, complimenti, lui ha fatto proprio questo, ha aumentato le entrate fiscali, ha diminuito le spese pubbliche, cioè il baratro fiscale, per questo ci ha dato un calcio su quelle parti là molto intime che difficilmente l'Italia riuscirà a rialzarsi. Quindi, siccome lo sa tutto il mondo, lo sanno tutti gli esperti, lo dicono tutti i giornali, di questa combinazione micidiale tra diminuzione della spesa e aumento delle tasse, lo sa anche Monti, quindi non poteva non saperlo, però lo ha fatto. A vantaggio di chi? Monti è un cavallo di Troia o una persona che si muove per conto suo a favore dell'Italia? Ho dei dubbi che le famose armi di distruzione di massa mai trovate all'Iraq come scusa per invaderla siano state usate in qualche modo anche come scusa per far entrare Monti, che non capiamo a favore di chi sta facendo questo, visto che con l'Italia non sta facendo niente di positivo. Lo ha fatto Mario Draghi impedendo lo spread di salire, lo hanno fatto altre a magistratura arrestando tutti i politici che rubavano, ma non ha fatto nulla Monti, né su quel lato del miglioramento dei politici, né sul lato dell'aumento dello sviluppo. Grazie. Grazie a lei caro Leone. Adesso ancora tra poco con qualche ascoltatore. Adesso invece sentiamo, visto che il nostro Paolo Panceri ha intervistato poco fa Silvio Berlusconi, sentiamo prima di tutto il commento di Berlusconi sul discorso, credo, di Napolitano ieri. Comunque, visto che c'era stata polemica alla vigilia del discorso del Capo dello Stato di ieri sera, perché insomma Berlusconi, sapete, aveva agitato una possibile commissione d'indagine su come è nato il governo Monti, una cosa che coinvolgerebbe anche il ruolo del Capo dello Stato. Sentiamo allora questo passaggio dell'intervista di Paolo Panceri a Silvio Berlusconi. Lei ha annunciato, in caso ovviamente di vittoria, una commissione d'indagine sui fatti che hanno portato alle dimissioni del suo governo nel 2011, in particolare anche facendo riferimento al ruolo del presidente Napolitano. Questo come si concilia con... No, io non ho fatto nessun riferimento al ruolo del presidente Napolitano. Mi è stata rivolta durante un'intervista una domanda riguardo al ruolo del presidente. Io ho risposto invece che sarà la storia a fare luce su quella vicenda e che prima della storia cercheremo di mettere in campo, vincendo le elezioni naturalmente, una commissione di vigilanza che esaminerà tutta la situazione, ma non ho mai fatto esplicitamente riferimento a un possibile ruolo del presidente Napolitano in quella vicenda. Non ha mai fatto riferimento in nessun modo, probabilmente questa volta ha ragione, perché almeno in quell'intervista non era citato Napolitano, però è evidente, perché tutti l'hanno detto, non lui magari ad alta voce, che la regia è stata di Napolitano, anche perché è stato lui a nominare il senatore a vita Monti, eccetera eccetera. Come si fa a parlare di congiura per l'operazione Monti e a dire che però Napolitano non c'entra nulla? D'altra parte lo stesso Berlusconi, ad esempio, dice sarà la storia a far luce su questo, quindi lascia aperto il dubbio. Però come sempre nel caso di Berlusconi poi c'è una smentita rispetto a quello che invece era emerso almeno dai titoli dei giornali, ma sicuramente sono i giornali che hanno forzato. Sentiamo, è ironico naturalmente perché invece il messaggio era chiaro di quello di Berlusconi, secondo me almeno, un altro passaggio in cui attacca nuovamente Mario Monti. Lei ha detto che Monti con la presentazione della sua lista rischia di diventare l'ennesimo liderino. Beh, è nelle cose, non sono io a dirlo, ma scendendo in campo e soprattutto con una compagnia come quella di Fini, di Casini, di Bocchino e degli altri, da Deus ex machina quale si era trovato ad essere per la nomina che aveva avuto a presidente di un consiglio di tecnici, Monti scende appunto nella arena politica e diventa un leader come tutti gli altri. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? 800 24 00 24, si continua a poter intervenire in diretta nonostante ampi stralci dell'intervista a Silvio Berlusconi, che sentiremo tra un attimo. Vi anticipo, ci sono altri due passaggi sull'alleanza con la Lega e poi Berlusconi che parla di una possibile grossa coalizione. Questa potrebbe essere l'ultima posizione, l'ultima notizia per quanto riguarda il PDL Berlusconi dell'anno. Tra poco sempre con Berlusconi. Adesso voglio sentire ancora un paio di ascoltatori. Francesco da Caserta, buonasera. Buonasera, senta, io volevo solo far presente che in un clima di antipolitica c'è comunque qualcosa che non va anche nell'elettorato, perché ad esempio l'altro ieri sera è venuto l'ex sottosegretario Nicola Cosentino a Piedimonte Matese, gravato da un ordine di custodia cautelare però salvo per l'immunità parlamentare, e quella famosa votazione che Bozzi diede il suo voto. Sì. Ed è stato accolto in città con fuochi d'artificio e banda musicale. Ma organizzati da chi i fuochi d'artificio? Ma io credo che dalla... Perché lei dice i cittadini, però i fuochi d'artificio non li organizzano i cittadini, l'aveva organizzati il sindaco. La parte politica l'ha organizzata anche perché in ogni caso ha richiamato l'attenzione di molti cittadini che applaudivano. Io rimango un attimino perplesso perché vedo che in piazza si parla contro la politica, ma nei fatti poi quando questi qua scendono in campo, vengono tra la gente, sono sempre ben esaltati, quindi cioè, io là non riesco a spiegarmi che cosa sta capitando. Questo qua era una mia considerazione personale. Ma devo dire che su Cosentino io sono abbastanza d'accordo con lei, credo che non dovrebbe essere più coordinatore del partito in Campania, perché uno che ha questo giudizio di essere addirittura referente politico dei casalesi, questo c'era in quella ordinanza di custodia, in quella sentenza passata in giudicato tra l'altro, su Cosentino uno può dire di essere innocente, però quando ci sono parole così pesanti della giustizia e passate in giudicato tra l'altro, beh, lì è una questione di opportunità proprio politica, per molto meno altrove si va a casa. Invece Cosentino è ancora lì, questa è la testimonianza di un ascoltatore da Caserta, 800 24 00 24. Vogliamo sentire allora, già che siamo sul filone, un altro pezzettino, l'abbiamo anticipato nell'intervista di Berlusconi, a proposito della Lega in questo caso, al nostro Paolo Panceri. Come pensa che finirà la discussione in atto con la Lega per un'ipotesi di alleanza a livello sia locale sia nazionale? Io penso che realizzeremo l'alleanza e ci sono stati degli equivoci circa il fatto che io volessi pormi come candidato alla presidenza del Consiglio, ma questo non è mai stato, probabilmente c'è stato un equivoco nell'utilizzo delle parole, perché la legge prevede, la legge elettorale prevede l'indicazione del leader della coalizione. Monti si è presentato come leader della coalizione del centro, Bersani si presenta come leader della coalizione della sinistra e Berlusconi sarà il leader della coalizione di centrodestra. Quindi questo è un fatto superato su cui non c'è contrasto. Per quanto riguarda invece il programma, credo che anche qui abbiamo raggiunto l'accordo su alcuni punti di questo programma, che non esplicito perché non ne ho autorizzazione da parte della Lega, ma sono assolutamente fiducioso che si possa realizzare e continuare, direi, quell'alleanza che ci ha visto insieme alla Lega per molti anni e che ha portato a degli ottimi risultati. Quindi è superata l'ipotesi Tosi lanciata da Maroni nei giorni scorsi come Premier? No, la Lega può indicare come Premier chi vuole. Non è questo un contrasto all'alleanza, perché poi intanto se la coalizione non vince non c'è naturalmente nessun premier da indicare, se la coalizione vincerà i vari partiti indicheranno un loro candidato e naturalmente il candidato che sarà portato dal partito che ha avuto più voti sarà quello che prevarrà. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Avete sentito, questo pezzo è abbastanza importante, a meno che poi non ci sia una successiva smentita dopodomani, perché qua Berlusconi dice, ed è abbastanza straordinaria questa capacità tutta politica, tutta dialettica che ha Berlusconi di inventarsi le cose, è da qualche tempo che si è inventato lo sdoppiamento della figura del candidato e della coalizione. Adesso non c'è più il candidato presidente, che era la fissazione presidenziale tra l'altro del PDL, cioè il candidato leader della coalizione, che consente di sdoppiare il ruolo, per cui niente contrasti con la Lega, lui è il candidato della coalizione, ma ognuno c'ha un suo candidato premier. Questo sarebbe ancora una innovazione rispetto a quella che è stata la prassi degli ultimi anni. Insomma, questo è quello che ha detto Berlusconi. Vabbè, tra poco sentiremo un altro pezzettino, così ce lo centelliniamo, visto che è un'esclusiva di Radio 24. 800 24 00 24, sentiamo intanto Gianpietro che chiama dalla provincia di Cremona. Sì, buonasera, auguri. Prego. Gianpietro da Crema, ho ascoltato... Mi scusi, a me hanno scritto Cremona, anzi... Sì, no, ma era giusto per mantenere alta la... La bandiera. La famosa, no? Disputa. No, ho sentito molto volentieri, ho ascoltato il suo pezzettino qui su Berlusconi, carino veramente, è di fatto così e di fatto anche volevo buttare lì qualche considerazione. Noi un po', noi che poi giriamo sulla rete, che giriamo per la strada, c'è molta confusione, nel senso che c'è questo sdoppiamento, gente che si fa 3 in 4, c'è anche cattiva disinformazione. Se poi partiamo dal presupposto che comunque un po' tutti stiamo male, no? Partiamo dal presupposto che... Non lo so, ce lo dica lei, sì. Tutti ci hanno un po' messo male, cioè italiano medio dai famosi 50.000 lire di 11 anni fa al 50 euro, no? Partiamo da questo concetto che ormai è assorbito da tutti. La questione è questa. Monti con tutto il suo gruppo avrà messo a posto i conti sicuramente seguendo le indicazioni dell'Europa, ma li ha presi da noi. Parlano di mettere a posto un punto della spesa quando poi a luglio avremo il 22% di IVA. Quindi la domanda è questa, una considerazione, vediamo se riusciamo a svilupparla insieme. Lombardia vince Maroni, poi adesso non abbiamo ancora capito l'accordo, non l'accordo, in che modo, se si fa, se non si fa, come si può arrivare a farlo per vincere. Lombardia, Veneto, Piemonte comincia a diventare un asse. Domanda, secondo lei Roma dovrà far poi conto di questo asse? Perché fino adesso, nonostante queste regioni sono la trazione integrale dell'Italia, perché poi sono quelle che producono più reddito e così via, non abbiamo l'impressione noi abitanti qua che possiamo far valere le nostre ragioni, no? Domanda è, dovesse vincere, e questo... Piemonte, Lombardia, Veneto, secondo lei cambia veramente qualcosa? Sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori e anche magari cosa ne pensa il nostro prossimo ospite. Grazie a lei, Alessandro Cattaneo, il nostro prossimo ospite, sindaco di Pavia, tra gli animatori del movimento Formattiamo il PDL, nonché vicepresidente dell'ANCI. Quest'ultima, come dire, titolo adesso è quello che gli preme di più, credo. Cattaneo, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Sa che lei ci dovrà parlare sicuramente di questi due colloqui che ha avuto con Monti e con Berlusconi, che l'hanno corteggiata, perché è uscito sui giornali. L'hanno corteggiata, però la notizia ce l'abbiamo già. Lei non si è dimesso da sindaco, scaduti i termini, adesso lei non è candidabile, quindi non si candiderà per nessuno dei due. Esatto. La scelta che ho fatto, ma dire il vero, diciamo che la scelta non è mai stata in discussione. Io con coerenza ho sempre detto alla mia città che ha portato a termine il mio mandato, cosa che oggi reputo sia la serietà, la credibilità, la coerenza siano i valori più importanti per chi fa politica. Quindi lusingato, interessato di portare non solo dell'invito ricevuto, ma soprattutto di portare in quelle stanze le mie idee e le battaglie che abbiamo fatto in questi mesi. E contento che abbiano avuto comunque un riscontro e continuiamo a portare avanti con coerenza il nostro progetto. Lei vuole fare un po' come Renzi, forse, cioè non come Renzi, lei di fatto sta facendo la stessa scelta, cioè si tiene fermo a questo giro, aspettando, magari scommettendo su una legislatura magari corta, resta a fare il sindaco come Renzi, lei resta a Pavia. Sì, beh, non è uno scommettere una legislatura corta o lunga, molti dicono che sarà corta. Io non lo so, a volte le idee prima di un appuntamento elettorale sono poi smentite dai fatti e può succedere di tutto nelle urne. Poi legge al Senato è vero che è particolare e può portare instabilità, ma è anche vero, vediamo nel 2008 per esempio, che c'è stata invece una grande stabilità. È proprio una scelta invece di coerenza, anche perché non deve essere vista come una diminuzione quella di fare il sindaco, anzi io credo che non ci sia ruolo più bello e entusiasmante. Oggi la credibilità dei sindaci, lo dicono anche le statistiche, è molto elevata. Quella del Parlamento lo è un po' meno, un pochino meno. Di Parlamento fino a come è stato fino adesso. Vedremo il prossimo se cambierà qualche cosa. Però ci deve dire chi dei due è stato più, per esempio, un pochino più pressante tra Monti, lei ha avuto il colloquio proprio personalmente anche con lui, e Berlusconi. Chi dei due ha pressato di più? Ma no, non si tratta di essere pressanti, insomma, sono persone autorevoli e che in questo momento hanno sul tavolo molte opzioni per portare avanti il loro indirizzo politico. Diciamo che mi ha fatto piacere il fatto che fossero entrambi interessati a un progetto politico che venisse dal basso e quindi che coniugasse la presenza sul territorio, la conoscenza, aver avuto un'esperienza da amministratore locale, e in questo momento questo aspetto viene visto in maniera molto positiva. Monti lo considera un'esperienza civica. In questo momento lui sta cercando molto, no, soprattutto per quanto riguarda la sua lista, questo approccio civico, e reputa chi ha fatto un'esperienza negli enti locali come a tutti gli effetti afferente a quel tipo di percorso. Secondo me ha ragione questo. Ma lei non è così critico come una parte del suo partito Sì, ha detto bene, una parte è critica, ma un'altra parte non lo è critica. In qualche modo, no, c'è anche una volontà di provare a dialogare, a capire, insomma. Noi stessi per primi avevamo offerto a Monti il fatto di essere il referente onorario di Moderati, sì. Una parte del partito aveva fatto l'iniziativa Italia Popolare che andava proprio in quella direzione. Se il riferimento è il Partito Popolare Europeo e i valori sono quelli a partire dalla sinistra, io credo che ci sia il dovere, non solo la volontà di dialogare. Bisogna assolutamente dialogare. Come si fa, come ha fatto Berlusconi, a dire prima che ci vuole una commissione d'indagine sul governo Monti, che è stata una congiura e che quindi il primo congiurato sarebbe Monti, dopo avergli proposto di guidare la propria area politica? Non è una contraddizione? Diciamo che in questo periodo se ne sentono di dire un po' di tutti i tipi. Io anche su Monti, anche nei giorni in cui all'interno del mio partito molti criticavano, ho sempre detto che oggi, e ritorno un po' all'inizio, la coerenza è un aspetto importante anche rispetto al quale avere poi il riscontro della fiducia del cittadino. Quindi non potevamo... questa cosa di Berlusconi come la giudica lei? Berlusconi, capisco che nel tempo si è anche rammaricato probabilmente per certe scelte che Monti ha fatto. Però, come dire, io continuerei a provare sulla strada del dialogo e non sui contenuti, soprattutto sui contenuti, perché mi sfugge ancora nei contenuti pratici alcune posizioni del mio partito, ma anche di altri, e lascerei un po' da parte queste polemiche. Raccolgo in questo senso l'appello che ha fatto ieri anche il Presidente della Repubblica, che sia una campagna elettorale sui contenuti e non aspra, violenta, come in alcuni aspetti, e anche questo lo è. Rischia altrimenti di diventare. Senta, noi poco fa abbiamo fatto sentire un'intervista di Radio 24 a Berlusconi di questo pomeriggio, nel quale lui dice chiaramente, forse mi ero distratto io, ma forse è la prima volta, ha introdotto questa distinzione in maniera molto chiara, evidente, tra il candidato leader della coalizione e il candidato premier. Cioè adesso ci sono due figure, io sapevo fino ad oggi che era uno, adesso ce ne sono due per far spazio all'alleanza con la Lega, per evitare questo impasse sulla candidatura di Berlusconi presidente. Anche questa è un'invenzione. La politica è l'arte del possibile, anche se io credo che la semplicità nel messaggio che diamo ai nostri cittadini sia l'aspetto più importante. Noi abbiamo sempre sostenuto che sapere la sera del giorno delle elezioni chi governa è un aspetto di chiarezza. Ecco, sapere anche prima chi è il candidato premier mi sembra chiaramente un aspetto di chiarezza. Distinguerlo dal leader della coalizione, beh sì, questo tecnicamente, politicamente può starci, è nelle cose. Però vuol dire contraddire tutto quello che il PDL ha fatto in questi Forza Italia, il PDL, cioè la spinta presidenziale. Come dice lei, la sera delle elezioni dobbiamo sapere chi governa. Adesso, secondo quello che dice Berlusconi, la sera delle elezioni non sappiamo niente, perché c'è un leader della coalizione che può aver vinto le elezioni, però poi siccome ognuno ha il suo leader e il suo candidato premier, che succede? È una contraddizione enorme. Io non ho sentito la distinzione, o non so se il presidente Berlusconi magari c'è riferimento più a una figura di carattere politico della coalizione, una sorta di... Se vuole glielo facciamo sentire, se ha tempo glielo facciamo sentire. Sì, io ho tempo. Visto che ce l'abbiamo, benissimo. Allora risentiamo quel passaggio, poi ne abbiamo anche un altro che non abbiamo ancora sentito sulla coalizione. Il passaggio, non c'è fretta dalla regia, sto dicendo semplicemente agli ascoltatori, il passaggio è quello in cui Berlusconi introduce, parlando a proposito dell'alleanza con la Lega, la distinzione tra il candidato leader della coalizione e il candidato premier. Sentiamo al microfono di Paolo Panceri. Come pensa che finirà la discussione in atto con la Lega per un'ipotesi di alleanza a livello sia locale sia nazionale? Io penso che realizzeremo l'alleanza, e ci sono stati degli equivoci circa il fatto che io volessi pormi come candidato alla presidenza del Consiglio, ma questo non è mai stato, probabilmente c'è stato un equivoco nell'utilizzo delle parole, perché la legge prevede, la legge elettorale prevede l'indicazione del leader della coalizione. Monti si è presentato come leader della coalizione del centro, Bersani si presenta come leader della coalizione della sinistra e Berlusconi sarà il leader della coalizione di centrodestra. Quindi questo è un fatto superato su cui non c'è contrasto. Per quanto riguarda invece il programma, credo che anche qui abbiamo raggiunto l'accordo su alcuni punti di questo programma, che non esplicito perché non ne ho autorizzazione da parte della Lega, ma sono assolutamente fiducioso che si possa realizzare e continuare, direi, quell'alleanza che ci ha visto insieme alla Lega per molti anni e che ha portato a degli ottimi risultati. Quindi è superata l'ipotesi Tosi lanciata da Maroni nei giorni scorsi come premier? No, la Lega può indicare come premier chi vuole. Non è questo un contrasto all'alleanza, perché poi intanto se la coalizione non vince non c'è naturalmente nessun premier da indicare, se la coalizione vincerà i vari partiti indicheranno un loro candidato e naturalmente il candidato che sarà portato dal partito che ha avuto più voti sarà quello che prevarrà. Fermiamoci solo un attimo per un breve spot. Eccoci qua di nuovo in compagnia di Alessandro Cattaneo, sindaco di Pavia. Ha sentito allora questo passaggio nelle parole proprio di, insomma, due ore fa di Berlusconi ai nostri microfoni. Che ne pensa? Beh sì, Berlusconi ha esplicitato quello che è il contenuto della legge elettorale attuale, che in realtà gira un po' la nostra Costituzione, che non prevederebbe la votazione diretta del premier e che quindi... Certo. In una legge c'è scritto che sei il leader della coalizione. Poi è anche vero che probabilmente per superare le passe con la Lega bisogna cercare di arrivare a un accordo che preveda anche in qualche modo indicazioni sfumate, diciamo così. Però io, come sempre, vado alla sostanza. Io credo che al nord la coalizione Lega PDL ha dimostrato nei fatti in tante amministrazioni di fare bene, e come sempre quando i cittadini vedono fare le cose bene sarebbe un elemento di confusione fare altrimenti. Quindi io sul livello locale assolutamente sono a favore, peraltro governo anche la mia città di Pavia insieme alla Lega, e devo dire che si trovano sempre, c'è una sintonia piena, senz'altro quella della sinistra, e quando andiamo insieme le esperienze positive sono di gran lunga superiori rispetto alle altre. Insomma, è ovvio che una delle cose positive di questi anni è stato avere diviso chiaramente due campi. Un appiglio per arrivare al risultato che rimane è più importante rispetto allo strumento che c'è in mezzo. Detto questo, è anche vero che in Italia da troppo tempo parliamo di una riforma anche in senso presidenzialista, che io e il mio partito abbiamo auspicato, o anche altri, però purtroppo veniamo da un periodo storico in cui, come anche accennava lei, troppo spesso ci si è un po' divisi solo per la casacca che si portava e non per i contenuti di quello di cui si discuteva. Ecco, credo che questa fase, seppur tribulata, possa essere un'occasione positiva anche per uscire da questi schemi vecchi. Mi è piaciuto anche quando è stato detto da alcuni schieramenti, da Monti stesso, bisogna dividere tra gli innovatori, i riformatori e i conservatori. Questo forse è uno schieramento, una distinzione oggi ancora più radicale che non quella delle figure. Lei è molto montiano, anche se non riesce a prendere le distanze da Berlusconi troppo nettamente. Io sono una persona che dialoga sui contenuti concreti, e quindi mi piace confrontarmi su quelli. Non è che mi piace tutto di Monti sul governo. Io ho detto che la gamba dello sviluppo, che doveva essere il binario, no, tra i sacrifici, ma l'altro doveva essere altro elemento per far correre il paese da quello dello sviluppo, questo è mancato. Per esempio, anche da vicepresidente dell'ANCI abbiamo un po' criticato il passo indietro sul federalismo fiscale, che era invece una conquista perché andava nel senso della responsabilità dell'autonomia. Quindi io, quando si parla di contenuti, ci sto a parlarne con chiunque al di là della casacca. Quando c'è qualcuno che dice delle cose positive non ho nessun imbarazzo a dirlo, anche se appunto vengo tacciato ogni tanto di essere per questo un pericoloso rivoluzionario. I pensatori liberi a volte corrono questo rischio. No, soprattutto nel partito di Berlusconi chi non è con lui facilmente diventa un pericoloso rivoluzionario comunista, però credo che questo sarebbe troppo anche per lei. Anzi, forse uno dei problemi del partito, del mio partito, è quello che è stato proprio il popolo della libertà, fin troppa libertà, e Berlusconi in questo senso, almeno in alcune occasioni... Non so cosa ne penserebbe Fini di questo, non so se si ricorda un anno e mezzo fa, due anni fa. Vabbè, Lo vediamo oggi, è andato su posizioni totalmente diverse. A proposito di libertà nel partito, c'è stato un noto sconto su questo concetto tra Fini e Berlusconi. Si trattava di libertà, lì si trattava di visioni completamente diverse, e oggi mi sembra che Fini, con le posizioni che da lì in poi ha preso, fosse davvero difficile andare d'accordo. Beh, però lei sta ancora nel PDL e vuole dialogare con Monti. Fini non sta più nel PDL e sostiene Monti da centrodestra. Fini, quindi non è che siete così lontani. Fini doveva creare un partito del 15-20%, e oggi credo che il suo problema sia quello di trovare poi una collocazione per essere ancora all'interno della partita. Sì, ho capito, però voglio dire, politicamente non siete così distanti, non è che visti da lontano siete... È più una questione personale quella di Fini con Berlusconi a questo punto, secondo me, che non altro. Ma secondo me però l'errore fatto dopo un anno di legislatura, quando si aveva una maggioranza stabile, compromettere un'azione di governo che doveva durare e poteva durare. Sì, no, ma questo lo sappiamo, sì. È un errore mortale. Senta, Cattaneo, se vuole, sentiamo anche quest'altro passaggio che non abbiamo ancora sentito, sempre di Silvio Berlusconi al microfono di Paolo Panceri, un altro pezzo in cui parla, dei possibili prossimi scenari futuri. più di una volta negli ultimi giorni ha ribadito il concetto che il voto ai partitini è un voto frammentario che non porterebbe a nessun tipo di governo, sia di centrodestra sia di centrosinistra. Se uscisse dall'urna un Parlamento che non potesse raggiungere una maggioranza o di centrodestra o di centrosinistra, lei potrebbe eventualmente ipotizzare una specie di grosse coalizione sul modello tedesco con il PD per superare, diciamo, l'emergenza economica? La legge attuale non prevede che non si formi una maggioranza. La legge attuale ha la coalizione che avrà il maggior numero dei voti, concede il 55% dei parlamentari della Camera. Quindi con la legge attuale c'è comunque una maggioranza. Un conto è poi se questa maggioranza è coesa o se per la presenza di piccoli partiti non riesce a trovare quegli accordi necessari per dare vita a dei provvedimenti da mandare in Parlamento. Questo è successo, purtroppo ne ho fatto esperienza io, 2001-2006, quando di fronte all'esigenza del Paese di una profonda riforma della giustizia ho cercato per 2 anni di arrivare a un accordo, ma i vari Follini, Fini, Casini eccetera mi hanno impedito di arrivare a scrivere un disegno di legge condiviso. Quindi lei è intenzionato a procedere comunque verso la formazione di un governo che sia soltanto di centrodestra, in caso comunque di... E questo è nelle cose, è dettato dalla legge attuale. Cattaneo, non so se vuole commentare anche questo passaggio, non è che ci sia molto da parte di... Al vero tema è il Senato, come tutti sanno, sì. Perché è vero che il 55% dei seggi scatta automaticamente la coalizione che ha la maggioranza anche relativa e che quindi poi diventa assoluta in termini di seggi alla Camera, però tutti sanno che la vera incognita è il Senato e che molto dipende dalle grandi regioni, in particolare Lombardia, Veneto e anche Piemonte. Senta, ma dovendosi ripresentare adesso, insomma, come centrodestra, PDL o Lega, più o meno uniti o divisi, c'è un'autocritica da fare o si va agli elettori dicendo è stata una congiura, se avessimo finito la legislatura avremmo risolto i problemi dell'Italia? No, io dico da tempo, bisogna sempre partire da, innanzitutto capire dove si è sbagliato all'interno della nostra coalizione e quindi è giusto dire con franchezza le cose che non si è riusciti a fare. Dove avete sbagliato, per esempio? Beh, io credo nei valori liberali e i valori liberali di cui siamo stati portatori e rispetto ai quali abbiamo creato grandi attese. Non siamo riusciti totalmente a realizzarle, qualcosa abbiamo fatto, ma il Paese ha bisogno di fare molto di più, questa è una grande sfida, un'occasione rispetto alla quale dovevamo essere più incisivi, possiamo ancora esserlo, questo è un elemento che ci connota molto e poi anche francamente su qualche aspetto di casi che io reputo comunque casi singoli non sistemici, però rispetto a i casi di scandali che ci sono stati, anche un po' di alcune vicende eticamente contestabili, bisogna dire chiaramente che insomma il partito degli onesti lo vogliamo davvero essere. A proposito di questo, Cattaneo, un ascoltatore da Caserta ci ha segnalato che Nicola Cosentino è stato accolto a Caserta dai fuochi d'artificio, lui che ha una ordinanza, una sentenza di custodia cautelare passata in giudicato, poi decaduta per altre ragioni, in cui viene definito vicino ai casalesi e molti avevano chiesto le sue dimissioni. Ancora lì, lui è uno di questi casi su cui avete sbagliato, secondo lei? Beh, io credo di sì, come ce ne sono anche altri. Poi ogni caso ovviamente va guardato, però il principio lineare rispetto al quale chi ha delle condanne di sentenza passate in giudicato, perché garantisti per fortuna lo siamo e la Costituzione ci richiama questo, però chi ha questi casi è giusto che non possa trovare spazio nelle liste. E il secondo aspetto è anche quello che quando ci sono dei casi clamorosi e conclamati come quelli di Fiorito, poi voglio dire, questo è un esempio tra i tanti, ahimè, possano esserci prese dal partito le contromisure tempestivamente, altrimenti poi si rischia di fare tutto un erro, un fascio e di allontanare le persone per bene, che sono la stragrande maggioranza all'interno anche del PDL, che hanno voglia di fare bene e che fanno politica solo per passione. Ma perché secondo lei il PDL non ha fatto queste operazioni? Lei ha citato 2 casi, per quale motivo non sono state fatte? Cosa lo ha impedito? Io credo che il partito a un certo punto si è un po' ingessato tra logiche di correnti, posizionamenti reciproci, e quindi il partito che ha proprio la funzione un po' preventiva di selezione della classe dirigente, di intercettare tutto ciò e di essere il filtro virtuoso nella selezione della classe dirigente politica, il partito invece ha seguito le logiche un po' della vecchia politica. E il dispiacere è un po' doppio, perché invece appunto una delle grandi rivoluzioni positive che Silvio Berlusconi ha portato è proprio quella di tenere lontana tutte queste logiche che appartengono al professionismo della politica. Spesso negli ultimi tempi poi invece ci siamo trovati ingarbugliati e incapaci di essere incisivi per questi posizionamenti reciproci e correnti varie che fanno solo male. Buon anno, bravo Cattaneo, glielo dica Maria da Pavia, ci scrivono al 349-238-6666, hai visto? I complimenti di Maria da Pavia. Grazie, allora faccio anch'io con l'occasione gli auguri, non solo ai pavesi, quelli li ho già fatti, ma li faccio anche a tutti gli ascoltatori, a voi tutti, per un ottimo 2013 dove ciascuno possa realizzare i propri sogni mettendosi in gioco, ecco, questo è importante, che ognuno ci metta un pezzettino del proprio senso civico, della propria passione in tutto ciò che vuole fare. Grazie, grazie, buona serata e buon anno. Grazie anche a voi. E allora, facciamo una breve pausa. Eccoci qua, allora, l'800 24 0024, tra un attimo con i vostri interventi, adesso sentiamo i titoli del TG1. Napolitano, si affronti la questione sociale, fiducia negli italiani fuori da crisi solo con Europa e campagna elettorale non sia distruttiva. Applauso a Napolitano da tutti i partiti tranne che da IDV e Lega, Berlusconi, Monti uno dei liderini, centristi al lavoro su simbolo e liste. L'analisi di un anno di governo sul sito di Palazzo Chigi, ora tagliare le tasse, pensioni, scatta la riforma Fornero. 2013, gli auguri del Papa all'Italia nel segno della pace, il monito di Bagnasco su aborto e eutanasia, dietro anche motivi economici. Rapimento Calevo, arrestato il quarto complice, 7, forse 20 persone nella banda dei Balordi, prime ammissioni, Andrea interrogato per ore. 2 morti in campagna, 361 feriti in tutta Italia, molti bambini e il bilancio dei botti di fine anno, grave, un uomo colpito da pallottole vaganti. Niente più corse del trotto a San Siro, chiude dopo 87 anni l'ippodromo simbolo di Milano, travolto dalla crisi. Vittorio Feltri al TG1, per noi che amiamo i cavalli è una giornata di lutto. 800 24 0024, sentiamo chi vogliamo sentire, chi abbiamo in attesa da più tempo. Bah, Lorena forse della provincia di Roma, buonasera Lorena. Buonasera e auguri. Auguri anche a lei, grazie. Grazie, no, io volevo soltanto dire una cosa. Sì. Che agli italiani, io ho 67 anni, da quando ho avuto l'età della ragione, non ho mai sentito un italiano. Senta, non so se c'ha il viva voce o se sta parlando, c'ha la radio accesa. Telefono. Spenga la radio però se ce l'ha accesa. Spegni la radio, Maria, per favore. Brava, perché sennò sentiamo l'eco. Sì. Grazie, sì. Grazie, Lorena, prego. Ecco, volevo dire soltanto questo. Che ah, non basta, va così. Mai bene niente. Adesso che abbiamo sistemato l'audio, mi finisce l'intervento così, Lorena, va bene. Non so, ha sentito poco fa Cattaneo, sì. Vuol commentare qualcosa, sì. Berlusconi, abbiamo intervistato. No, tanto... No, era soltanto per fare una considerazione e basta. Va non bene. Mi intendo molto di politica e basta così. Grazie, buon anno, auguri. Grazie, auguri. Grazie. Andiamo, dove andiamo? Massimo da Milano, buonasera. Massimo, ci sente da Milano? Massimo? Buonasera, Massimo! Non lo so. Allora proviamo con Franco da Siena, ma perché tutti si stanno riprendendo dalle serate di Bagordi, da ieri sera ovviamente, no. Quindi stiamo digerendo cotechini, respirando ancora arie ammorbanti. E Franco? Pronto? Ci sente? Pronto. Buonasera. Buonasera a lei. Una domanda, una curiosità, io sento parlare, sento un ritorno, sanamente. Non viene da ridere perché stasera non ne becchiamo una. Franco, lei sente il ritorno, noi invece mi pare che sentiamo bene, Franco. Quindi, ecco, allora va bene così. Allora, l'importante però, è questo, comunque, che gli ascoltatori la sentono perfettamente. Vada. È una domanda, è una curiosità che mi affligge da tempo, no? Cioè, si parla di vendere il patrimonio immobiliare per cercare di sanare o quantomeno ridurre il debito e via di seguito. Ma perché non si parla mai della riserva aurifera del Stato italiano che grazie all'aumento, purtroppo perché l'oro è aumentato, è più che raddoppiata. Ma così come in una famiglia, un buon padre di famiglia quando è alle strette cerca di anche di vendere i gioielli, l'oro, così come succede, perché lo Stato italiano non ha mai pensato a ridurre, che poi sarebbe un dato estremamente comprensibile, visto che era sì, sì, ho capito Franco, però guardi che se lei invece, secondo me, se lei va a ripescare vecchie dichiarazioni di politici, sicuramente troverà qualcuno che ha proposto questa cosa, una proposta un po' estemporanea, nel senso che sì, si può anche vendere quello che dice lei, però insomma si fa cassa una tantum e poi dopo siamo punto e da capo, quindi sicuramente non è una misura strutturale. Certo, potrebbe dare una mano, sono convinto però che se va a guardare qualcuno che l'ha proposto lo trova, e magari ci sarà qualcuno in campagna elettorale che la riproporrà. Voleva aggiungere altro Franco, ci fermiamo qua? No, volevo aggiungere, sì, cioè da questo punto di vista, è perché in funzione proprio di un aumento del debito pubblico, perché Monti, nonostante che abbia sbandierato o chi sta sbandierando i successi del governo del professore, poi in effetti, così come ha detto altri che hanno telefonato, non è che ha raggiunto dei risultati concreti per quello che riguarda il debito pubblico, anche è aumentato, quello che ha fatto è solo una battaglia sullo spread che poi tutto sommato si è risolta e si è ridotta a questo aspetto e basta, perché poi per il resto chi ha pagato sono sempre i soliti, la gente soffre, continua a soffrire e soffrirà anche quest'anno purtroppo. Va bene Franco, quindi fermiamoci qua, è chiaro quello che lei sta dicendo. Adesso salutiamo Magda Culotta, giovane sindaco di Pollina in provincia di Palermo, nonché fresca vincitrice delle primarie del Partito Democratico. Magda, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Facciamo una pausa per il traffico e poi parliamo con lei. Continuiamo a conoscere le facce nuove emerse da queste parlamentari del PD e di SEL. La nostra ospite Magda Culotta è stata, insomma, quanti voti ha preso prima di tutto? 3.029. Tanti per insomma entrare nelle liste e avere probabilmente la possibilità di essere eletta. Prima di tutto però mi tolgo una curiosità, perché tutti i giovani, lei è giovanissima, è più giovane sindaco d'Italia o no? Sì, sono il più giovane sindaco donna d'Italia, sì. Sono diventata sindaco 2 anni e mezzo fa a Pollina. Insomma, prima di tutto congratulazioni per questo, perché metterci la faccia a 24 anni e diventare sindaco, poi al sud, insomma, dove ci sono ancora pregiudizi sulle donne? Ma devo dire che la mia esperienza personale questo non può raccontarlo, certo, perché intorno a me c'è stato un bel apprezzamento su questa candidatura come sindaco, e in tutte le realtà in cui entro, anche tutte quelle realtà che sono messe in relazione con il comune, devo dire che vengo sempre ben rispettata, anzi forse proprio perché sono l'unica tante volte. È diventata un po' un simbolo. Io volevo capire questo, come mai tutti i giovani del PD che hanno vinto le primarie sono tutti, anziché uno potrebbe immaginarsi, staranno con Renzi perché il rottamatore, il giovane, invece siete tutti bersaniani? Sì, io sono una sostenitrice convinta di Bersani, questo non l'ho mai negato, non ho avuto mai dubbi su questa cosa, perché credo che sia la persona più giusta per poter guidare l'Italia in questo momento di crisi, perché coniuga la saggezza, l'esperienza, ma anche alla possibilità di dar spazio ai giovani, come è accaduto con queste primarie. Ma non c'è una identificazione con uno come Renzi, che ha qualche anno in più di lei, una decina, però insomma è sicuramente generazionalmente parlando, poi per il discorso che fa largo ai giovani dovrebbe sentire questa sintonia, invece lei non la sente. O sì, magari no, però sceglie Bersani per questioni politiche. No, diciamo che non la sento tantissimo, nel senso che ho grande rispetto per Renzi, credo che sia un bravissimo sindaco, ha dimostrato di essere sicuramente una persona valida anche con il risultato che ha prodotto per le primarie del Premier, però mi rivedo più nei valori e nella politica di Bersani piuttosto che nella sua. Non mi piace questa rottamazione totale che dall'apparenza del togliti tu che adesso tocca a me. Ecco. Ma dovessi andare a cena fuori, preferirebbe andare con Bersani o con Renzi? E in questo momento sicuramente preferirei andare con Bersani. Niente, neanche per un gelato, Renzi. No, sì, assolutamente, anche per un gelato, più sì. Di un gelato, ah, per carità. Però già alla cena preferisce Bersani, già per la cena preferirebbe la compagnia di Bersani. Senta, ma sì. Secondo lei Renzi farà un suo partito prima o poi? Ma questo non lo so, sinceramente adesso non so rispondere a questa domanda. Bisogna capire cosa succederà in questi 50 giorni che ci separano dal voto. Senta, invece una cosa importante è questa. Come si fa a diventare sindaco a 24 anni a Palermo? Com'è andata? Ce lo racconti. Ma è stata un'esperienza bellissima, perché è stata un'esperienza che è venuta veramente dal basso. Nel 2010 Pollina si avvicinava alle elezioni amministrative e comunque si era percepito quella voglia di cambiamento che c'era sul territorio, per cui proprio per rompere con i vecchi schemi del passato si è pensato di candidare una persona fresca e nuova al panorama politico, che comunque non avesse scheletri nell'armadio. Ma lei fino al giorno prima della candidatura cosa faceva? Si occupava già di politica? Ma diciamo che lo facevo così, in maniera spassionata. Io ero una studentessa, mi sono laureata da sindaco. Accidenti, quanti abitanti fa Pollina? Pollina fa 3.070 abitanti. Beh, insomma, parliamo di un piccolo comune, per cui diciamo non è stato difficile reggere un po' anche la pressione per una ragazza giovane come lei. Adesso che andrà a Roma, probabilmente dopo queste elezioni, non ha paura di essere anche un po' stritolata dai big della politica, da tematiche, da questioni più grandi di lei? No, questo non mi spaventa. Spero e credo di poter essere all'altezza di relazionarmi con loro, anzi spero di poter apprendere da loro quello che possibilmente oggi non conosco bene. Non mi ha spaventato questa avventura, insomma, di primaria, in cui c'erano tanti big e tanta gente che proviene da un non forte passato politico, quindi non mi spaventa neppure relazionarmi con loro. Anzi. A chi si vorrebbe sedere a fianco in Parlamento? C'ha qualche preferenza? No, no, assolutamente. Io sono aperta a tutti, perché credo che c'è da raccogliere del buono, sì, da tutti. Il primo progetto di legge che vorrebbe portare avanti, la prima legge che vorrebbe far applicare in Parlamento? Ma sicuramente questa sulla doppia preferenza, quindi il cambiamento della legge elettorale, e prevedere una doppia preferenza, credo che sia qualcosa di utile. Lo abbiamo apprezzato da queste primarie, o avvertito, cioè che comunque la gente lo ha apprezzato parecchio. Dare la doppia preferenza di genere. Cioè? Spieghi meglio, perché magari non tutti capiscono la questione dal punto di vista non squisitamente politico, tecnico. Sì, ok. Dico, si è parlato molto di variazione della legge elettorale, quindi si potrebbe puntare a produrre una legge elettorale che consente ai cittadini di scegliere coloro che andranno a sedere al Parlamento e al Senato, quindi riprodurre in grande quello che è stato fatto in piccolo con le primarie del Partito Democratico, con cui si è data la possibilità ai cittadini che si sono riconosciuti nel popolo delle primarie di scegliere i propri candidati dando una doppia preferenza, quindi un uomo e una donna. Dando quindi la possibilità di una adeguata rappresentanza anche al sesso femminile, che fino ad oggi è stato forse poco rappresentato in politica. Però sta questione della legge elettorale viene detta e non viene mai fatta, cioè se ne parla molto. Prima o poi bisognerà affrontare l'argomento, perché sicuramente hai ragione tu, se ne parla tanto però poi si produce poco da questo punto di vista, ma prima o poi bisognerà farlo, perché alla gente il Porcellum non piace. Da queste primarie, questo voglio ribadirlo, la gente ha ottenuto una possibilità grandissima dal punto di vista democratico, e quindi questo ci deve far riflettere. Va bene, auguri Magda, che dire, congratulazioni intanto e auguri grazie, di buon anno e anche per quello che sarà l'esperienza politica. Grazie, ne avrò bisogno, tanti auguri anche a voi e buon lavoro. Grazie, abbiamo ancora tempo per sentire almeno un ascoltatore, forse anche due. Claudio da Trento, buonasera. Sono Claudio Cia da Trento, buonasera, sono consigliere comunale di Trento. Niente, sì? Volevo intervenire su Dell'AI, che appunto avete intervistato, sì, stasera. Ma sentivo appunto nell'intervista che Dell'AI si rifaceva De Gasperi, è un po', diciamo, un suo stile quello di recuperare, diciamo, figure indubbiamente nobili come De Gasperi, i valori che De Gasperi portava, ma la sensazione è che comunque questo venga fatto più in modo funzionale ha delle ambizioni. Questa è un po' la mia convinzione. Non dubito e non metto in discussione le capacità e le competenze che ha Dell'AI. Io non sono mai stato affascinato dal suo modo di gestire la politica in Trentino, un modo un po' autoritario, sembrava, a me è sempre apparso più un doge che un presidente. Vabbè, un uomo che ha avuto vari ruoli, perché è stato presidente della provincia, sì, è stato sindaco, due volte sindaco, quindi ha accumulato sicuramente un po' di potere. Devo dire che sulla questione del riferimento a De Gasperi, ma come quando altri politici fanno riferimento a vecchi esponenti, insomma, anch'io la penso un po' come lei, sono cose che servono così per coprire. Per mettere il cappello su cose magari di cui non si sa bene cosa dire, perché la domanda quando lui ha citato De Gasperi era sul collocamento che la forza di Monti avrebbe in Europa e lui ha citato De Gasperi eccetera eccetera, però siamo rimasti un po' in sospeso su questo ed altri concetti. Comunque dobbiamo fermarci qua, grazie, l'altro ascoltatore non lo possiamo sentire, Claudio lo salutiamo, grazie per essere stato con noi, io saluto anche tutti gli ascoltatori, buon anno, che dire, tanto ci risentiamo domani, la zanzara delle feste, l'orario è dopo il GR delle 18 fino alle 20:30, buona serata a tutti. La zanzara.